Mi dispiace per voi, cari maestri dello sberleffo, ma stavolta la danza è un'altra, è cambiata l'orchestra, i musici e anche i ballerini, e non è più il tango col casquet, ma un rock. Albertini, vieni giù, che sei frocio pure tu. La zanzara. Tutto il resto è non ho detto gioia. Padova, Lecce, Bologna, Forlì. Mille fanali, allegro il cuore, via che va. Lo so che sei in Israele, caro Parenzo, però ti do una notizia che viene dall'Italia, intorno al Movimento 5 Stelle. Cosa c'è? Sì, shalom, dopo. Cosa ruota, cosa avviene nel Movimento 5 Stelle? Beh, stanno avvenendo delle cose incredibili dopo il no a Bersani. Innanzitutto hanno scelto un nuovo comunicatore per il Senato. Tu lo sai come si chiama questo nuovo comunicatore? Beh, io ci ho lavorato col nuovo comunicatore. Ma che è, Nicky il Nero? No, diciamo con il collaboratore del nuovo comunicatore, Casalino. No, Rocco Casalino è quello dell'ex del Grande Fratello, sì, quello è un il altro. Consulente. Il consulente. Però abbiamo un altro comunicatore che si chiama Nick il Nero. Beh, ma è un nome di battaglia, immagino. Nome di battaglia. Si chiama in realtà Nicola Virzì, 44 anni, bolognese. Indovina che cosa faceva, cosa fa in realtà. Nick il Nero? Sì, cosa fa secondo te? Beh, Nick il Nero di cosa si occuperà? Di internet, di cosa si occuperà? No. Di trolls, di camionista, di hacker. Camionista. Beh, questo è ottimo. Senti. Saluto il mio amato camion e mi aspetta questa nuova avventura. Spero di essere all'altezza, lo farò con tutto il cuore. Cercherò di essere il vostro occhio all'interno delle istituzioni. Mi vedrete anche con la cravatta, che questo. Mi hanno detto che mi devo mettere la cravatta. Nick il Nero, un mito, una leggenda. I camionisti entrano finalmente nelle istituzioni tramite Grillo. Buono. Ma è o non è una rivoluzione questa qua? No, ma questa è una cosa positiva, bisogna dargli atto. Poi è diventato anche videomaker, come si dice, cioè fai video ed è uno. È un casaleggiano di stretta osservanza, potremmo dire così. È un fedelissimo del guru. Fedelissimo del guru. Sì, uno che segue l'ortodossia casaleggiana. Sì, signor sì, Crocetta, sì. Comunque, presidente, detto con tutto il rispetto, io però sono, come dire, sono eterosessuale. Glielo dico chiaramente, presidente Crocetta. Mi dispiace, doverglielo dire. Lei mi sta molto simpatico, una bellissima persona, però. Vabbè, ma che c'entra? No, ma perché ti ricordi ieri cosa ha detto, no? Ma come no? Ma a me senti, mi senti. Sembri anche sgarbato dover puntualizzare. Guardi, a lei non lo conosco, però sembra abbastanza intrigante per interessarmi. Sì, almeno mentalmente. Beh, sì, perché sono un po' stronzo, dunque sono tipi che piacciono, no? Finisce di mettere in imbarazzo gli altri, mette in imbarazzo lei. Sono tipi che piacciono, un po' stronzi così, eh. Comunque, vabbè. Certo, molto. Più stronzi sono, più piacciono. Intanto Bersani fra poco esce dal Quirinale, dal colloquio. Sentiremo, mi sembra di capire, a meno che non ci siano rivoluzioni, che passerà la mano. Dopo aver sentito in queste consultazioni, sentiamo Brunetta. Ecco, sì, il professor Brunetta. Mancavano solo di essere consultate le casalinghe disperate, l'associazione benemerita degli alcolisti anonimi, perché per il resto ha consultato tutti, si è preso un altro giorno di riflessione, su che cosa non lo so, visto che le risultanze sono chiare. Beh, in questo caso come si può dar torto all'ironia del professor Brunetta in questo caso? Dopo aver consultato, anche il WWF, sinceramente bastava fare di conto, no? Perché poi le hanno tentato di tutte. E facevano i conti, i responsabili al Senato, allora gli autonomisti, se esce la Lega dall'aula, se esce il PDL. Ma come si fa a fare un governo? Come si può solo pensare di fare un governo così? Perché c'è l'ossessione di entrare a Palazzo Chigi. Abbiamo già un ospite collegato con noi, un grandissimo ospite, e anche un grande ritorno alla Zanzara. Però ci vuole Fiorello Subbattiato, eh? È sempre il numero uno assoluto. Fiorello Subbattiato, ancora un'imitazione. Finalmente ce l'ho fatta a farmi cacciare via. Minchia, non ne potevo più, ci avevo provato in tutti i modi. Lo sai che facevo delle volte? Entravo in regione con dell'incenso alla Roma di sterco di capra tibetana. Niente da fare, le ho provate tutte. Ho detto che erano tutti ladri, niente da fare, mi hanno lasciato. Finalmente, appena ho detto che c'era un pugno di bottane, mi hanno cacciato via. Che bello. Ragazzi, questa è da numero uno, l'ha provata di tutte. Effettivamente, cioè, andava a fare i concerti, sicuramente non metteva mani, non toccava nulla della burocrazia. Appena ha detto che c'erano le buttane, l'hanno cacciato. Ma abbiamo con noi un altro grande siciliano, il professor Antonio Martino, PDL. Buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Come sta? Come sta, professor Martino? Compatibilmente con l'età, l'idea liberale, no, mai specificare con cosa. Compatibilmente copre tutto il campo. Senta, ma le troie di Battiato, ecco, appena ha sentito questa frase, se l'ha sentita, ma immagino di sì, perché lei è al corrente di tutto, come l'ha presa questa cosa? Come una butad? Mi sembra veramente una manifestazione di cattivo gusto, del tutto gratuita. Poi andare a raccontare al Parlamento europeo, ma non mi sembra proprio il caso. Quasi da vergognarsi di essere un conterraneo di Battiato, no? Io Battiato non lo conosco, sì. Se è siciliano mi dispiace molto che abbia fatto questo comportamento. È di Catania, sì, è di Catania. Ma le ha dato fastidio l'utilizzo della parola troie o il fatto che ne abbia evocato l'esistenza? Ai catanesi sono nordico, perché sono di Messina, quindi sono a quasi 100 km a nord. Ah, il problema è che è di Catania, dice lei. No, io ho tanti amici catanesi, siciliani in genere. Li adoro e sono orgoglioso di essere siciliano. Certo, sono meno orgoglioso quando vedo dei siciliani che si comportano in questo modo incomprensibile. Ma è andato fuori di testa, secondo lei, un po'? È andato un po' fuori di testa, che dice? Ma sì, credo che sia andato un po' fuori passo, non diciamo così. Parenzo, siccome sei in collegamento da Israele, ti prego di non sovrapporti, perché altrimenti distruggiamo tutto, capito? Mi dai tu la parola? No, vai pure con il professor Martino. Saluto e omaggio. Innanzitutto ricordagli la tua visita a casa sua, dove hai visto... Credo che il professor Martino sia l'unico liberale presente in quel partito, dove forse non ci sono delle troie, questo noi non lo sappiamo, ma anche i liberali sono veramente con l'umicino. Comunque, ogni persona contribuisce con la sua diversità a fare il mondo, a fare l'umanità. Ci vogliono tutti, ci vogliono i santi, ma ci vogliono anche le peccatrici, perché no? Devo dire che se dovessi stare su un'isola deserta con una santa, probabilmente starei meno bene che se fossi con una peccatrice. Senta, professor Martino, però anche tempo fa lo stesso Vittorio Feltri disse, per riprendere la frase di Battiato, che in realtà Berlusconi aveva candidato anche un sacco di puttane in Parlamento. Ma vede, sui costumi privati, sessuali dei miei colleghi parlamentari non svolgo indagini. No, quello no. No, però le candidature... Ne ho avuto esperienza diretta di questa non lodevole propensione delle mie colleghe, mi piacerebbe averla avuto. Ah, insomma, ma magari ci fossero, dice lei, in Parlamento. Certo, tante, sarebbe bellissimo. Sarebbe straordinario, come dire, anche solo allo sguardo, o no? Beh no, sì, anche l'occhio vuole la sua parte, ma esatto. Non c'è solo l'occhio nel corpo umano. No, lo so, professore, però sa, siccome uno è in Parlamento, non è che poi... Purtroppo molti dei miei colleghi sono convinti che l'importanza della libertà sia dalla cintura in giù. In realtà la libertà è importante dai piedi alla testa, e quella della testa è la libertà più importante. Ah, è vero. Lei dice che i suoi colleghi, lei parla del PDL? No, parlo in generale. Dei parlamentari, dei politici, sono in genere molto più propensi a battersi per le libertà che riguardano la parte del corpo umano che sta sotto la cintura, anziché per quella che sta sopra. Lei dice, sono un po', dal punto di vista politico, sono un po', tra virgolette, serbi, no? Tra virgolette. Invece, per quello che riguarda la loro libertà sessuale, sono molto... No? Sono molto liberali quando si tratta di libertà sessuali, molto meno quando si tratta di libertà economiche o di libertà intellettuale. Ma anche nel suo partito, sì, beh, certo. Sì, dappertutto, sa, chi è senza peccato scagli la vita. Senta, ma quanto ha goduto per la fine poco onorevole di Fini, scusi la ripetizione, e Casini, anche se Casini è sopravvissuto al Senato, Quanto ha goduto? Mi dica la verità. Martino, guardi, che il mio amico Pier Ferdinando Casini abbia subito uno smacco elettorale, mi ero permesso di prevederlo proprio qui alla vostra trasmissione. trasmissione. Come no? Quando lui si offese e mi tolse la parola, anzi mi insultò. Sì, per quella storia delle donne, sì. Sì, solo perché mi ero permesso di suggerire che a lui piacevano le donne. Beh, non è una cosa. Giovani, ma no. A quale uomo normale non piacciono le donne, specie se giovani? Beh, cioè... Solo uno molto strano può amare le donne vecchie, brutte, malate. Una persona normale guarda le donne giovani. Ma anche lei che è sposato un sacco di anni guarda le donne giovani? Sì, io sono sposato da quasi mezzo secolo, ma quando mia moglie vede che guardo una donna, dice non mi dispiace che guardi, ma almeno chiudi la bocca. Un grande rapporto, come dire, un grande rapporto liberale, insomma, diciamo la verità, un grande rapporto liberale. Comunque, beh, lui si arrabbiò con lei, Casini si arrabbiò con lei, per cui, ma è contento che è rimasto al Senato oppure sarebbe servito... Avrei preferito che si prendesse una vacanza, perché povero uomo si è stancato moltissimo in questa attività politica, quindi se fosse andato in vacanza e si fosse riposato sarebbe stato utile anche per la sua salute. Senta, le chiedo una cosa, ex ministro della difesa, lei nel caso dei Marò cosa avrebbe fatto? Di tutto pur di mantenerli in Italia? Lì è stata impostata malissimo agli inizi, perché sì. Se è vero, come sembra appurato, che la nave italiana si trovava in acque internazionali, era Italia, quindi nessuno poteva andare. E vabbè, a parte all'inizio, ma la gestione adesso ultima, con tutto il casino che c'è stato... La ultima è successo qualcosa che forse si sarebbe potuto evitare. Io conosco e sono amico di Giulio Terzi da tantissimi anni, però le dimissioni doveva dare o molto prima o non darle affatto. Non può pretendere che il governo che si è impegnato a restituire i due Marò poi venga meno alla parola data solo per tenere in Italia i due Marò. Questo non è... Ma lei li avrebbe restituiti o no? No, io non mi sarei impegnato a restituirli, io sarei intervenuto con la forza subito. Ah, perché intervenuto con la forza? Con la forza, ecco, subito? È stato un clamoroso abbaglio, perché hanno accusato i Marò che erano innocenti, perché i Marò hanno sparato, ma un'altra imbarcazione. Sì, ma al di là dell'aspetto, come dire, concreto che poi è in discussione. E ma... poi soprattutto non avrei consentito che venisse spostata la nave. La nave doveva restare in acque internazionali come prova del fatto che la cattura dei Marò era atto di pirateria. Ma una volta tornati in Italia, lì dovevano rimanere, secondo lei, la restituzione, l'accordo? Se si erano impegnati a restituirli, dovevano restituirli. O ce li prendevamo con la forza o con le forze speciali. Lei l'avrebbe fatto? Con la diplomazia prima, oppure una volta tornati in Italia, se abbiamo dato la nostra parola che torneremo. Bisogna mantenerla. Bisogna mantenerla. Le zanzare di casa mia si nutrono di me quando il giorno scivola. Ci sono petizioni online, c'è una parte del PDL che pensa, caro Parenzo, di candidare al Quirinale la persona che abbiamo qui ai nostri microfoni. Sarebbe un'ottima scelta. Vabbè, ma tu slecchini tutti così, ma no, io con Martino è una delle persone. Professore, lei ci pensa oppure no? È vero che se uno lo dice viene bruciato? No, ma queste sono cose che uno non pensa nemmeno per pudore. Il fatto è che effettivamente io credo che la scelta del Presidente della Repubblica sia fondamentale, perché se questa legislatura, come sembra, è destinata a durare poco, i Presidenti di Camera e Senato durano poco, anch'essi poco, mentre il Capo dello Stato dura. Ma è giusto che vada al centrodestra, come dice Berlusconi, oppure sono classificazioni e categorie? Non deve essere una persona che rispetti la Costituzione, cioè che garantisca quello non c'è dubbio. L'unità del Paese. Ma lei lo farebbe o no? Sì. Sa tagliare nastri, baciare bambini, andare ai funerali, credo che riuscirei pure a farlo. E il resto? Mi cercherei di essere il meno loquace possibile. Cioè, si sente adatto o no? Sarebbe il presidente americano Calvin Coolidge. Cioè? Calvin Coolidge parlava talmente poco che una volta una donna disse: ho scommesso con mio figlio $10 che le avrei fatto dire tre parole. Sun wins fu la risposta. Ma da questo ha punto vinto il figlio. Due parole. Non ne ha dette tre. Scusi, ma da questo punto di vista Napolitano parla troppo invece? No, io credo che quando un capo di Stato esprime, io sono amico e ammiratore di Giorgio Napolitano, quando un capo di Stato come il nostro, della Repubblica Italiana, esprime un'opinione, smette di rappresentare sì. Perché quelli che non condividono quella opinione non si sentono rappresentati. E lui più volte l'ha fatto? Cosa? Lui più volte l'ha fatto, quello di esprimere le proprie opinioni, sì. Napolitano. Napolitano, sì. Per la verità il presidente Napolitano è stato impeccabile in quasi tutte le circostanze. E poi da quando è arrivato Monti, eccetera, cioè nella vicenda del... No, no, lì, no, voglio dire, io conosco Monti da una vita, perché l'ho incontrato la prima volta a Venezia nel 1975, sì. Quindi pensi un po', sono sì, passati sì. 37 anni, 38. No, sono stato io a proporlo a Berlusconi come commissario europeo. Sì, me lo ricordo, sì. Ma la domanda è questa, lei si sente pronto no? Oppure è una cosa impossibile che non si vede? Io sono un giovanotto di 70 anni. Non è che abbia molte altre attività, quindi forse potrei anche farlo, chi lo sa. Chi lo sa. Pera, si fa il nome di Pera anche per il centrodestra. Marcello sarebbe impeccabile. Però vorrei ricordare che non è mai stato eletto un presidente della Repubblica italiano nato a sud di Napoli. Perché dal 1955 non c'è un liberale. Ma insomma, mi pare un'autocandidatura questa qua, Martino. Perché no? Ma no, ma così, mi autocandido. Diciamo che il suo nome è assolutamente spendibile. Quello di Verdini forse meno, no? No, Verdini non è nemmeno candidato, nemmeno da lontano, però abbi pazienza. Non è questo. Però voglio dire, no, tra i nomi spendibili, Ma Parenzo che ce l'ha con Verdini, su, perché l'ha già dato per condannato a tutti i processi possibili immaginabili. No! Ma, scusi Martino, ma Dell'Utri è un perseguitato? Ma Dell'Utri è un perseguitato secondo lei? Guardi, la vicenda di Dell'Utri mi ha colpito molto, perché io conosco Dell'Utri, che è un bibliofilo, una persona di grande intelligenza e cultura. Questo però. E che sia stato implicato in qualche modo in vicende mafiose, non lo credo, non lo crederò mai. Ma è un perseguitato dalla magistratura? Ma non è un reato essere nati a Palermo. Ora, io voglio dire, in nessun paese, civile o meno, esiste l'associazione come reato. Sì. L'associazione può essere... È sbagliato il reato, lei dice, il concorso esterno, lei dice. Se commette un reato, può essere un aggravante, un attenuante, non lo so. Sì. Sarà condannato come sarà imputato. Sì, ho capito. Responsabile del reato e loro coimputati, ma l'associazione in quanto tale non è un reato. Primo. Secondo, che cosa significa concorso esterno? Non ne faceva parte, ma come, se il reato dell'associazione non ne faceva parte è colpevole. Ma lei, secondo lei, è perseguitato dalla magistratura? No, io quello che sto dicendo è che la figura del reato, i reati secondo lei sono fumosi e inesistenti, la mafiosa non ha senso, è assolutamente priva di senso. Io non faccio teorie su complotti, persecuzioni eccetera, questo non mi interessa. Quello che dico è che abbiamo un sistema giuridico che si è inventato una figura di reato che secondo me non esiste. Ma lo sai, Parenzo, che secondo me il professor Martino è molto più vicino a Grillo di quello che uno possa pensare. Innanzitutto tutte e due sono contro l'euro, diciamo più... Grillo è un parvenu da questo punto di vista, perché io il primo articolo che scrissi di critica ai progetti di unificazione monetaria lo pubblicai a giugno. Ma ha ragione su questo punto Grillo? Uscire dall'euro, no? 71. Non so se abbia ragione, perché non ho mai ben capito quali siano le motivazioni. A lei un ho l'impressione che abbia un'antipatia per le banche, che sono istituzioni neutrali. Uno può avere più o meno simpatia per un'istituzione, ma sono istituzioni fondamentali al funzionamento dell'economia moderna. Ma lei qualcosa ha in comune con Grillo? Si sente di avere qualcosa in comune con Grillo? Guardi, no? L'unica cosa che ho in comune è che a Genova uno dei piatti è lo stoccafisso alla genovese, che in realtà è una brutta copia del pesce stocco agliotta, che è il piatto tipico di Messina. Cioè l'originale, dice lei, a Messina. Se lei capita a Messina, vada a mangiare la ghiotta di pesce stocco, è una cosa eccezionale. Se poi va a Genova e chiede il stoccafisso alla genovese, vedrà che è una pallida imitazione. Senta, ma Berlusconi al Quirinale è impossibile. Una volta... Non credo che si divertirebbe, perché fra l'altro l'abitazione sarebbe troppo piccola, troppo aspittica per lui. Ma poi soprattutto lei se le immagini Corazzieri a girare intorno a inseguire tutte le donne in giro per il Quirinale, sarebbe... Ma non credo che sarebbe necessario. Dovrebbe comportarsi con Ma sa. Ho capito, sai, il passato insegna qualcosa, no? Ho qui davanti a me sul mio scrittoio una fotografia di Luigi Einaudi. Sì. E quello, secondo me, è stato non solo il primo Presidente della Repubblica, ma per molti versi è stato il più importante, perché si è trovato perfino a dover rispettare il giuramento di osservare e difendere la Costituzione. E lui, al discorso di insediamento, disse che il 2 giugno aveva votato monarchia. Cioè, il primo presidente della Vabbè, ma questo che c'entra? Era monarchico. Questo per dire cosa? Per dire che lui espresse quella opinione al momento del giuramento solo per ribadire che, malgrado ciò, riteneva suo dovere rispettare la Costituzione vigente. Senta, la rispettò scrupolosamente fino alla fine. Professor Martino, ma la questione fondamentale rimane questa. Lei lo farebbe subito un governo col Partito Democratico? Ma vede, secondo me il problema è questo. Non esiste una maggioranza politica in Parlamento. La legge elettorale vigente ha dimostrato per l'ennesima volta di essere una pessima legge. Però stiamo chiudendo. Chiunque abbia a cuore il futuro dell'Italia deve porsi come obiettivo quello, anzitutto, di modificare la legge. D'accordo, ma lei farebbe subito l'accordo col PD o no? Sì. Aspetti che concludo, perché io non lo farei fra un partito e un altro partito. Io direi, se nel Partito Democratico, nel Popolo delle Libertà, e nella Lega, in sella, eccetera, ci sono persone convinte dell'urgenza di risolvere questo problema, anche perché siamo in una fase non di recessione. Però devo chiudere, professore, non ho tempo. Appoggino il governo e gli consentono di fare la legge elettorale. Sarebbe, come è stato detto sul giornale, un governo di scopo. Senta, ma è contento di avere come capogruppo Brunetta? No, io sono amico di Renato Brunetta. Benissimo, solo questo volevo sapere. L'abbraccio sono molto più anziano di lui, ma questo non c'entra nulla. Tua è sfortuna mia. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. Ruggisce tutta la notte. E siamo arrivati in tempo, caro Davide. Ti faccio sentire in diretta Bersani, tu che sei in Israele. Eccoci qui, Bersani, dopo l'incontro con Napolitano. Avete ascoltato il comunicato della Presidenza della Repubblica. Io ho solo questo da aggiungere. Ho naturalmente riferito al signor Presidente dell'esito del lavoro di questi giorni, delle consultazioni, che non hanno portato un esito risolutivo. Ho spiegato le ragioni al Presidente, ho illustrato gli elementi di comprensione, anche significativi, positivi, che sono venuti in diversi gruppi parlamentari, attorno a proposte sia di natura programmatica che di natura istituzionale. Ho descritto anche le difficoltà derivate da delle preclusioni o da delle condizioni che io non ho ritenuto accettabili. A questo punto, semplicemente, il Presidente ha ritenuto di condurre immediatamente e direttamente dei suoi accertamenti. Tutto qua. Grazie a tutti. Non ci sono domande, non ci sono risposte. Il flash dell'ANSA di pochi istanti fa è che Bersani rinuncia e il Presidente si riserva tempo per nuove verifiche. Sono sempre queste crisi politiche italiane. Parenzo, sono cose che non accadono in nessun'altra repubblica, diciamo la verità, in nessun altro paese europeo. Le verifiche, le cose, le consultazioni, gli accertamenti. Adesso non sono più consultazioni, ma accertamenti. Bersani ha detto: non ho ritenuto accettabili alcune preclusioni. Insomma, rinuncia di Bersani. Le consultazioni non hanno portato un esito risolutivo. Insomma, la palla torna nelle mani del presidente Giorgio Napolitano. Siete contenti oppure no di questo esito? Microfoni aperti qui alla Zanzara. Intanto beccatevi i due preti che nei giorni scorsi si sono augurati la morte di Berlusconi. Allora, io dico una cosa. Ma se non interviene la curia, in questo caso le rispettive curie, no? Quando io non dico che bisogna prendere un provvedimento, dico un intervento da parte della curia, no? Parenzo, sarebbe forse necessario o no? E beh, se non ci pensano loro, non è che possiamo pensarci noi a sanzionarli. Iniziamo da Don Farinella. Sì, io anche subito gliela darei l'unzione degli infermi con un bulacco d'olio da annegarlo, glielo darei subito. Sì, gliela darei subito io. Lei spera che crepi? E diciamo che se lo facesse ci libererebbe da un bel problema, da un bel rospo e da una bella palla di piombo al piede, insomma. Non solo mia, ma dell'Italia. E poi, beh, il mitico da Rovagnate, credo, provincia di Lecco. Che diavolo è? Lecco, dalla piccola parrocchia di Rovagnate, il prete molto battagliero, ancorché estremista, come diavolo si chiama? Don Den Capitani. Non sarebbe male la morte di Berlusconi, anche lei... Ma penso che ve l'ho detto io, no? No, non lo so, l'ha detto, sì. E come no? E che ha detto? Come no? E che ha detto esattamente? Come si mette in discussione questo? Certo che l'ha detto. Ma mancherebbe altro. Io penso che il Padre Eterno me lo tiri su qualche volta, no? Ah, dice... Certo, ma un prete che augura la morte a qualcuno, certo. È per amor del cielo. Però è meglio che lo tiri su, dice lei. Ma senz'altro. Libererebbe l'Italia, insomma. Libererebbe l'Italia, addirittura. E come se lo può tirare su, secondo lei? Di morte naturale o violenta? No, ma io lascio fare il Padre Eterno, sa quello che fa. Mandiamo i titoli del TG3, Tonde Capitani... Beh, la curia di Lecco, di non so che cosa, di Milano in questo caso, quella di Genova, forse qualche piccolo interventino, qualche piccolo rimprovero, uno schiaffetto anche pubblico dovrebbero farlo, oppure no, caro Parenzo, tu che sei in Israele lì e non stai capendo nulla di quello che accade? Beh, che devono fare? Faranno un richiamo a Divinis. Titoli del TG3, ma siamo e Bersani è arrivato dopo, Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Bersani al Quirinale per riferire al Capo dello Stato sulle consultazioni, trattative fino all'ultimo, in campo l'ipotesi di un governo del Presidente. Il PDL insiste, nessun accordo è possibile se non ci danno il Quirinale, scelta civica dal leader del PD, finora abbiamo visto troppo poco. Grillo, il Parlamento è sovrano, può funzionare anche senza governo, Bersani ai lavori socialmente utili, riuniti i gruppi parlamentari di 5 Stelle. Caso Aldo Brandi, il sindacato di polizia COISP difende la sua manifestazione e dice politica ipocrita, la cancellieri si dimetta, il ministro ospite del TG3. L'OCSE, solo l'Italia tra i grandi paesi resta in recessione, ripresa a fine anno, Banca Italia a rischio mercati, grilli dai soldi alle imprese, spinta alla crescita. Da mezzogiorno riaperti gli sportelli delle banche a Cipro, lunghe file davanti agli istituti di credito, il Presidente della Repubblica si riduce lui lo stipendio. Giovedì Santo del Papa, tra i giovani detenuti del carcere minorile di Casal del Marmo, il rito della lavanda dei piedi a 12 ospiti del penitenziario, per la prima volta anche 2 giovani donne. Le zanzare di casa mia. Beh, rimandatevi per favore il tutto qua di Bersani, tutto qua, quando dice tutto qua e se ne va. Amareggiatissimo. Si fanno tanti nomi, anche quello di Giuliano Amato, anche quello del tuo amico Giuliano Amato. Vi dico subito, no, per favore, no. Tu lo inseguivi perché gli volevi chiedere dei 30.000 euro lordi di pensione, ti ricordi? Sì. E non ha risposto mai. No. Professore, possiamo farle un paio di battute? No. La questione delle pensioni? No. Professore? Non faccio battute di nessun genere. Sulle pensioni, no, sulla riforma? No. Ci avete politici in servizio. No, perché volevamo capire per il futuro proprio del paese sulla questione delle pensioni. No, non faccio. Passioni e vanità, quando tutto sembra poi. Però voglio sentire subito la vostra voce, 800 24 00 24. Massimo dall'Aquila, buonasera Massimo. Massimo, con chi sta parlando questo? Massimo, dica. Massimo. Sì, sono Massimo dall'Aquila, buonasera. Questo l'ho già detto, Massimo. Chiedo scusa, no, due domande rapidissime. Rapidissime, prima, sì, qui non si fanno domande in genere, comunque va bene. No, vabbè, comunque, io avevo votato 5 Stelle e mi si sta seccando la mano destra perché sono pentito. Addirittura, già pentito di aver votato 5 sì, Stelle. Sì, sono pentito. Poi volevo chiederle, ma dietro Casaleggio, chi c'è dietro Casaleggio? Ma che perché cazzo ne so io solo chi c'è dietro Casaleggio? Ecco. Ma ci sarà poi Casaleggio stesso, c'è una società che si... Ma io ho un atroce dubbio, perché io non chiamo più questo Movimento 5 Stelle, ma lo vorrei chiamare Movimento Stella 5 Punte. In che senso, scusi? Nel senso, cioè, non lo so, perché è una deriva che non mi piace, tutto qua. Scusi, però lei è passato, sì, ho capito, lei è passato dal voto al Movimento 5 Stelle il 24 febbraio all'associazione con le Brigate Rosse, adesso, francamente mi sembra un po' eccessivo. Ecco. Non mi faccia dire cose che non c'è, è una deriva che non mi piace, ecco, tutto qua. Perché porterà di soldi. Ma qual è la deriva? Le dice che non accettano il governo col Partito Democratico e con Bersani, ma lo avevano detto prima. Ma perché rompete i coglioni a questi poveri disgraziati? Cioè, Grillo l'ha detto chiaro, perché la responsabilità è dei 5 Stelle. Ma di che stiamo parlando? L'ha detto prima chiaro e tondo, non do la fiducia a nessuno. Secondo me devono trovare un accordo, devono trovare un accordo. Secondo lei devono trovare un accordo. E non li voto, semplicemente non li voto più. Va bene, perché questo è legittimo, mica la posso impiccare io. Marco da Roma, buonasera. Buonasera, sono Marco da Roma insieme a un mio collega Angelo. Volevamo dire che tutti questi che chiamano quello che ci ha preceduto sono tutta gente infiltrata del PD che sta rosicando perché non ha trovato l'accordo col PD, non solo il Movimento 5 Stelle. Lei dice, eh? Perché l'unica soluzione è dare il governo al Movimento 5 Stelle con l'appoggio esterno del PD. Siccome ci hanno i scheletri nell'armadio e ci hanno paura che vanno a toccare pure loro, questo lo dico pure a Parenzo che fa tanto il sinistro dei radical chic, ci hanno paura e non l'appoggiano il Movimento 5 Stelle. È l'unica soluzione. Noi siamo dati dell'autobus di Roma, sono 5 anni e ci è scaduto il contratto. Ci stanno ma che c'entra, scusi? Tutti come che c'entra? Ma che c'entra gli autobus di Roma del contratto? Ma che ci frega a noi? Sì, ci serve un governo a 5 Stelle per farci rinnovare sto benedetto contratto, sì. Capito, Parenzo? Invece di difendere il PD. Ma che c'entra 5 Stelle col contratto degli autobus? Vuole un governo che fa i contratti, che rinnova i contratti, sì, che firma i contratti, no? Che fa. Sì, ci vuole un governo che distribuisce soldi a destra e a manca. Su, andiamo, certo, dai. Per far ripartire l'economia, no? Come dicono quei cazzari che il Movimento 5 Stelle non si è presa la responsabilità. Sono 20 anni che stanno al governo, ma quello è vero, quello è vero, quello è vero, quello è vero. Però non è che lei non si deve aspettare. Cioè, lei immagina, ha votato 5 Stelle, ha fiducia evidentemente in Beppe Grillo, almeno per il momento, perché abbiamo visto le cose come possono cambiare in maniera repentina, seguendo il ragionamento dell'ascoltatore di prima. Lei si immagina che Beppe Grillo arriva al governo e distribuisce denari a tutti, una sorta di Bengodi, no? Beppe Grillo prima taglia i denari, taglia chi ce n'ha troppi e dà a chi ha poveri, modello Robin Hood, insomma. No, non è Robin Hood, è modello 5 ma Stelle. Dai, su, ma di che stiamo parlando? Non si arrendono, quelli che chiamano come prima sono dei rosiconi del PD che stanno rosicando perché Grillo non gli ha dato l'appoggio, siccome sono convinti che la politica è ancora vecchia, come 30 anni fa che basta un contentino per fare un governo, hanno trovato pane per i loro denti. Capito, Parenzo? Invece di dire che la colpa è del Movimento 5 Stelle, la colpa è del PD che sono 20 anni che sbaglia rigori a porta vuota, è caduto il governo Berlusconi, poteva andare alle elezioni e prendere il 40%, non l'hanno fatto. C'è uno Renzi che poteva prendere il 42%, non l'hanno fatto. Bravo. Adesso rompono le palle a Grillo, attaccatevi tutti. Bravo, quanti. Bravo. Ma Parenzo è in Israele, è un po' depresso, è un po' affaticato e non può rispondere stasera in maniera degna, eh? No, sono col fuso orario diverso. Ma che ce ne frega a noi? Ma qui c'è una trasmissione da fare, rispondi, reagisci a questo ascoltatore che ti piglia per il culo, no? Altrimenti che ce stai a fare qua? Ma questo è un poveretto, cioè... Sì, è un poveretto. Poi che c'entra il fuso orario, che so, due ore... È un argomento talmente idiota che non merita neanche di essere... Comunque oggi la battuta più straordinaria l'ha fatta credo Rosy Bindi, l'ho pizzicata da qualche parte. Abbiamo iniziato consultando Saviano e siamo finiti cercando i voti di Michiche. Giancarlo da Torino, buonasera. Buonasera Cruciani, io devo dire voglio andare oltre Carisio perché io arrivo fino a Scarmagno, veramente mi sbellicate, complimenti. Allora vada. Vi dico solo questo, ieri sera è stata un spettacolo puro perché quel sacerdote lì, come si chiama lui? Don Giorgio De Capitani, sì. È bravissimo, si dimentica che le megere, le prostitute erano attaccate alla crocifisso di Dio durante la crocifissione. Che c'entra? E c'entra perché lui quando vuole la morte di Berlusconi critica le puttane, non sa che nell'ambito della cristianità questo oppure rappresentano un'icona. Pertanto lui sbaglia due volte perché dice delle cose da prete che non dovrebbe fare, e ha ragione lei quando dice poi che deve intervenire subito. Secondo, si dimentica che da cittadino poteva dirlo, perché poteva anche dirlo, ma da prete assolutamente no. È un spettacolo, puro spettacolo. Si vergogni quel cretino di sacerdote. Ai ai ai ai ai ai ai, hey, hey. Zanzara party. Ai ai ai ai ai ai ai, hey, hey. Zanzara party. Sotto il salice dal vivo qui a Radio 24 Iridillo. Buonasera, buonasera. Questa sera in concerto a Viale Monza a Ragù, andate tutti, chi è a Milano andate tutti in massa. Che marchette che faccio. Chi avete votato subito? Chi avete votato, Benji? Allora, vuoi sapere? No, dimmelo subito. Ho fatto un voto disgiunto. Ma come voto disgiunto? Non so, dai, ero molto combattuto. E chi ha votato alla fine? Allora, siccome dai, su, non fare votato, aspetta, vi ci devo pensare. Ho votato PD al Senato e alla Camera 5 Stelle. 5 Stelle, tu? 5 Stelle. Camera, Senato? Sì. E se no, da dove viene sto 25%? Da dove viene sto 25%? Da dove viene? 25%. Vieni, vieni, bella, siamo figli di una buona stella. Anche tu verso il blu, segui quella stella. Questo era un pezzo vecchio nostro. Sì, c'è una nota del Partito Democratico. Bersani non ha rinunciato. Beh, incredibile questa cosa qua. Ecco, ma tu che hai votato PD, Benji e 5 Stelle, avresti voluto ad oggi l'accordo tra i due? Dimmelo. Sì. Sì, l'avresti voluto. Sì. L'avresti voluto. Su una idea di... E tu che hai votato 5 Stelle? Io sì, perché non sono così fondamentalista. Cioè, l'ho votato un po' con il magoncino. Cioè, perché avresti votato, se no avresti votato il Partito Democratico. Guarda, all'inizio ero su Giannino, dopo la laurea finita ho dovuto cambiare strada. Va bene, però è vero quello che dicono alcuni, che l'elettorato in realtà del 5 Stelle questo accordo lo voleva. 800 24 00 24, tu ti sei perso una cosa grandiosa oggi, sei in Israele, lì, qui ci sono i Ridillo in diretta da noi. Riccardo D'Ancona, buonasera Riccardo. Buonasera Cruciani. Vada. Guardi, io la penso come l'ascoltatore di prima, cioè? Solo che io sono del PD e quello è del Movimento 5 Stelle. Allora? E quindi secondo me a questo punto l'incarico va dato al Movimento 5 Stelle. Il PD, per senso di responsabilità, come dice Bersani, dovrebbe fare di tutto per trovare un accordo. Sul governo a guida Movimento 5 Stelle. Ma è una cosa impossibile, non accadrà mai, lei lo sa. Cioè, non accadrà mai, lei lo sa benissimo che non accadrà mai. Se il PD non lo vuole, non accade, certo. Ma non è che se il PD non lo vuole, è un'ipotesi assurda, a parte che non lo vuole nemmeno Grillo in realtà. Cioè, Grillo vuole, come ha detto oggi il mitico professor Becchi, che saluto. Fai un saluto al professor Becchi, Parenzo. Omaggia il professor Becchi. Omaggia il professore. Omaggio, ma non professore. Solo omaggio per niente quello lì. Mitico professor Becchi, il quale oggi ha detto che il Parlamento può legiferare in ogni secondo. Potrebbe legiferare anche adesso. Non è vero. Bisogna smascherare questa cosa. Se uno oggi presenta un disegno di legge in Parlamento, questo disegno di legge si può tranquillamente approvare. Cioè, non è che ma è vero. Ci deve essere una maggioranza che lo approvi, furbo. Sì, d'accordo. Ma non è che ci vuole per forza un governo per legiferare. Diciamola tutta. Cioè, diciamola tutta chiaramente. Lui dice questo. Si può tranquillamente approvare e presentare dei disegni di legge. In questo il professor Becchi ha perfettamente ragione, o no? Ma non risolve il problema. Vabbè, Maurizio da Napoli, oggi sei stanco, va. Maurizio da Napoli, buonasera. Buonasera a lei. Vada. Le uniche due buone notizie della giornata c'è da proprio il PD. Uno, che Bersani non ce l'ha fatta. Sì. La seconda, che stanno iniziando a smontare questo carrozzone pesantissimo. Ho votato 5 Stelle, mi viene comodo pensare che l'effetto Grillo si stia facendo sentire. Ma lei dice, grazie, per Italia annunciati oggi e anticipati, sì, in realtà, sì. Grande scoop della Zanzara di oggi, lei questo dice? Esattamente, proprio questo. È una cosa bellissima, perché è un carrozzone che non va. I rami secchi vanno tagliati, l'hanno iniziato a capire, fortunatamente. Un carrozzone, adesso non esageriamo, un carrozzone. Insomma, è un partito che vive di finanziamento pubblico come tanti altri partiti, e siccome il finanziamento pubblico sta per finire, allora anticipano i tempi e cominciano a tagliare. Sono oggi... stati bravi. E oggi abbiamo anticipato loro alcune cose, tra cui il 75% dei costi della segreteria, due sedi chiuse, eccetera, eccetera. 75%, santi Dio, e vai. Roberto Massa Carrara, sì, che dimmi, Parenzo, che c'è? No, ma quindi questa è una cosa positiva, cioè adesso non capisco perché bisogna mettere in croce il Partito Democratico perché prende atto che i finanziamenti pubblici sono diminuiti e quindi applica una spending review, la chiede per il paese e la fanno anche per loro. No, ma infatti non c'è nessuno scandalo. La gente dovrebbe telefonare dicendo, beh, c'è qualcosa di positivo in tutto questo. Bisogna dire, questa perseveranza del Partito Democratico nel dire che Bersani non ha rinunciato, non la capisco, se non avesse rinunciato, cioè, ma è una cosa stupida, Pierluigi Bersani non ha rinunciato all'incarico, lo precisa il PD sottolineando che nel comunicato letto dal segretario generale Marra non compare la parola rinuncia. Tutto questo nasce dal fatto che l'ANSA, quando ha battuto la prima notizia, ha detto Bersani ha rinunciato. Ma di che si tratta? Di una rinuncia? È evidente, non è che richiama Bersani fra qualche giorno. Napolitano conduce delle consultazioni, incaricherà qualcuno che sarà in grado di comporre forse una maggioranza, cosa che non è stato in grado di fare Bersani. Ma altrimenti come si chiama sta roba qua? Cioè, guarda che qualche volta le segreterie dei partiti sono incredibili, eh? Tatanella si chiama. Tatanella. Roberto da Massa, buonasera. Roberto? Buonasera. Dica. Sì, mi sente? Sì, sì, la sento. Pronto? Sì, vada. Allora, no, volevo intervenire in merito al grande Battiato. Sì. Ha un pregio, Battiato, ha un pregio. Che pregio ha? Non è mai stato un ipocrita. Non è mai stato un ipocrita. Anche, sì. Anche nelle sue canzoni ha sempre risultato una certa situazione. E quello che lui dice lo pensa il 90% degli italiani. Io sono nel commercio e sento e ho sentito le varie, voglio dire, le varie impressioni che hanno avuto. Adesso, se si vuole per dire, tenere la forma, teniamola, ma la sostanza è quella, è veritiera. Ma qual è la sostanza? Che ci sono le troie in Parlamento? Ma che vuol dire? È riferita sia uomini che uomini. Guardi, a parte che non è vero, perché lui si riferiva chiaramente alle donne, lo ha detto anche al TG3. Comunque, mettiamo anche che si riferisse agli uomini. Ma mettiamo che si riferisse agli uomini, che cosa vuol dire? C'è un mercimonio, oh, lei è una persona intelligente, sì. Lei ha capito bene. Ha parlato delle donne, voleva dire che le donne portate da Berlusconi in Parlamento sono delle troie. Uno le deve dire chiaramente le cose. Su questo possiamo discutere, su alcune delle donne. A voi è piaciuto Battiato con questa uscita sulle troie in Parlamento, Benji? Io non l'avrei lasciato sicuramente al suo posto. A me è piaciuto. La penso abbastanza così, lo so, non è una cosa d'artista. Ma è molto popolare questa cosa qui delle troie in Parlamento, diciamo la verità. Cioè, il fatto di cioè, o no? È vero, assolutamente vero. E invece si trova da solo. Passo le mie notti qui da solo, pensando a te. Chi c'è? Questa stanza fredda e buia ormai sa tutto di me. Se alzo gli occhi al cielo, sogno di te. Sospetto che mi chiami tu, non lo fai mai. Allora, la questione è molto semplice, erano sempre ridillo qui, che ci sono venuti a trovare, provocheranno un po' di disturbo, un po' di casino, ma è così, sono fatti così, questa sera in concerto a Milano, autori di una straordinaria sigla per la Zanzara, anzi no, in realtà la sigla c'era già prima, la canzone c'era già prima, ma l'abbiamo usata e continuiamo a usarla in maniera vergognosa. Dove siamo qui? Roberto Massa Carrara c'è stato? No, Ambrogio D'Alecco. Ma i concerti, quella della Zanzara? Certo, ma fanno anche i manifesti. Ma se fossi stato a Milano stasera eri l'invitato l'ho principale, no. E perché non venite a fare un live in Tel Aviv? Sarebbe meraviglioso. Ma vai a cagare tu e Tel Aviv. Organizza intanto che sei lì. Trova qualcuno che caccia i quattrini così. Siamo appena stati negli Stati Uniti. Dopo abbiamo con noi Giuliano Ferrara. Buonasera, Giuliano. Buonasera. Che stai a fare? Sei trafelato? No, stavo cantando Cucuru Cucù Paloma. Cucuru Cucù, com'è che fa? Mettetemela subito. I cani che sono arrabbiati. Ma dove sei? Già in campagna per Pasqua? No, magari, no, sono foglio perché siamo stati qui in ansia per il tentativo Bersani. Ma perché, aspetta un attimo, perché il PD dice che non ha rinunciato? Cioè, c'è una tatanella pazzesca. Perché formalmente lui non è che ha detto rinuncio all'incarico conferito come Presidente della Repubblica, ha detto ho discusso con il Presidente della Repubblica, gli ho spiegato che non è risolutivo, cioè che non ce la faccio per adesso dargli una maggioranza, e lui ha detto che fa un rapido supplemento istruttorio personale. Cioè, ma questo significa che potrebbe... è una cosa fuori, diciamo, della ritualità. Esatto. Però, ma potrebbe ridargli un incarico, secondo te? No, ce l'ha ancora l'incarico, lui è sempre Presidente incaricato. Ah, ho capito. Però è un Presidente incaricato che in un passaggio piuttosto importante, cioè riferire dopo un primo ciclo di consultazioni, riconosce di non avere i voti sulla carta, e invece di dirgli vai a casa che ne metto un altro, hanno concordato dopo un lungo e credo teso colloquio col Presidente Napolitano che poi, siccome lui è pur sempre il capo del partito di maggioranza relativa di seggi alla Camera, sì, e quindi anche lui ha a sua volta la possibilità di bloccare tutto. E insomma, prima di mettersi in una situazione bloccata in cui non si riesce a fare niente, lui fa un supplemento di istruttoria. Pendente Bersani, diciamo, ecco, pendente Bersani, è pendulo. Pendulo, però è la pendulità, il pendulismo, il pendolarismo di Bersani, sì, è tutta una cosa interna di equilibrio al Partito Democratico. Cioè, ah, sì, ma è tutta una storia assurda, ridicola, che non doveva neanche cominciare, dai, uno non può dire... prima dice che Grillo è il fascismo nel web, sì, e poi ha bisogno dei voti di Grillo, allora dice no, ma io ci voglio parlare, allora quello gli dice sei un puttaniere, sì, sei un morto che cammina, e lui invece di restituirgli l'insulto, che è una sana cosa di tutte le grandi democrazie liberali, sì, gli dice ma mi spieghi bene che cosa voleva dire, e quindi è nato tutto con la conclusione, con la conclusione di questo, di sottoporsi a questa umiliazione dello streaming, appunto, una commedia grottesca. Infatti ho visto un Bersani distrutto, sta disintegrando letteralmente la sua leadership. Ma oltre a disintegrare la sua leadership, i padri fondatori della sinistra italiana, dei comunisti italiani da cui viene Bersani, si stanno rivoltando nella tomba per questa conduzione della crisi, o no? Sì, però sono stati riseppelliti, diciamo, ogni giorno nel corso degli ultimi vent'anni. Cioè... perché i padri fondatori del Partito Comunista, sì, diciamo, della, sì, sinistra, quella solida, abbastanza interessante, poi uno poteva combatterla da posizioni radicali, da posizioni di estrema sinistra, sì, però sì, era interessante. Quelli avrebbero cercato di sconfiggere Berlusconi normalizzando il rapporto con lui. Invece questi hanno fatto sempre il contrario, con il suggerimento degli azionisti di Torino, dei puritani, sì, dei trotschisti, sì, come Flores Arcais, dei manettari, diciamo, veterofascisti come il caro Marco Travaglio. Che cosa hanno fatto? Nel senso che è un uomo di destra, lo dico anche con rispetto. Sempre di destra. Che cosa hanno fatto? Hanno detto no, Berlusconi bisogna batterlo così, diciamo, superando l'Italia che lui rappresenta, che è un'Italia di rincoglioniti, di stupidi, di corrotti, di venduti, eccetera. E così hanno creato per vent'anni un clima impossibile, e oggi se ne raccolgono i frutti. E certo, perché è evidente, le elezioni giustificavano in modo assoluto un discorso pragmatico di Bersani. La grande diceva, coalizione, scusate, sì, qui non si può fare una maggioranza di centro-sinistra. Quindi o si va a votare subito, e non so se il paese ne guadagna, oppure si fa un governo di grandi coalizione con 8, 9, 10 punti concordati con Berlusconi. E invece Berlusconi... E poi si andrà a votare a ottobre. Noi presenteremo re. Ma lo sai che Parenzo è in Israele? Com'è? Lo sai che Parenzo è andato in Israele? Shalom, direttore. Ah, buongiorno Parenzo, come va? Beh, qui in Israele, bene, questa è una democrazia seria. Video molto, sei a Tel Aviv. Non ci sono comici da strapazzo che governano. Sei a Tel Aviv? Sì, è Tel Aviv. Dove sei? Ma Tel Aviv non è l'Israele, quella teologica importante, eccetera, e neanche quella delle colonie. Tel Aviv sei a Israele. È come dire sono andato a Parigi. Capito? Beh, certo. A Tel Aviv c'è il Moulin Rouge, tutto, le ballerine, scosciate. Non è, dovevi andare a Gerusalemme, no? Tel Aviv. Devi andare a Gerusalemme oppure lì, in quei posti terribili di confine. Gerusalemme non mi commuovo, ecco, non mi commuovi. Con Tel Aviv, dica, Tel Aviv non ti commuovi. Sì, Tel Aviv, scusa. Capito? Parenzo, vai a Gerusalemme. No, fare il gagà a Tel Aviv. Non fare il gagà a Tel Aviv. Vai dove pulsa. Giuliano, ma in Israele che cosa ne pensano secondo te del signor Grillo in Israele? Considero un idiota, lo considero. Non so, credo che lo farebbero a pezzi se potessero, perché lui, insomma, lui è così. Cioè, antisemita, secondo te, un po' antisemita? Adesso antisemita è un'accusa molto pesante, prima di farla verso a chiunque, ci penso due volte. Comunque ha degli atteggiamenti di forte antipatia verso il problema che gli ebrei storicamente e anche al di là della storia costituiscono nel secolo appena trascorso, nel XX secolo, e c'ha un'idea che il sionismo, eccetera, tutti i problemi che si risolvono in modo per lui facile, cioè, quindi alla fine è contro il sionismo, contro Israele, e quindi avrà anche una venatura, diciamo così, di diffidenza verso gli ebrei, ecco. E gli ebrei queste cose se le segnano. Hai capito, Parenzo? Fai delle indagini lì in Israele per sapere. Domani lo verifico, ma scrive delle minchiate sul suo blog, insufflato dalla moglie iraniana, sulla vicenda dell'Iran e quant'altro, che appartiene a quella teoria del complottismo internazionale, questo ciarpame no global che spesso. Vabbè, tu sei antigrillino di complemento, è inutile chiedere a te le cose su Grillo, che tanto sappiamo come va a finire. Parenzo, io quando mi chiede Cruciani, Giuseppe, delle cose su Grillo, sto attento perché so che lui è grillino, quindi ma Grillino, stai attento pure tu, ho no? votato Grillo semplicemente così per fare casino, no, per mi piace il casino, perché mi piace il caos, Giuliano, no. Giuliano piace l'ordine, venendo dal Partito Comunista, a me piace il caos, Giuliano l'ordine, è diversa la cosa, è tutto qui, io sono un po' più così anarchico, liberale, libertario, come dice Vannella. Non lo so, Battiato dice che lui vuole, vuole risolvere il problema costruendo su un'identità del numero uno, deve stare sotto l'uno metafisico eccetera, povera patria eccetera, che tutte quante sono gladri, tutte orrende eccetera, e lui Battiato solo con Manlio Scalambro e vuole esprimere nella sua persona qualcosa di divino. Ma hai sentito le canzoni? Ti piacciono? Sì, le canzoni? Appunto, c'ha l'idea di essere un semidio, invece è solo un cattivo musicista. Ai ai ai ai ai, cantava. Però io ieri ho detto una cosa, dovrebbe limitarsi a cantare. Ma limitarsi a cantare nel senso che se canta con Curucucù Paloma, ma se poi fa quelle pippe che sembra Giovanni Sebastiano Bach, almeno vuole sembrare Giovanni Sebastiano Bach, però non è né cattolico né protestante né pagano, né niente. Ma hai scritto una musica del cazzo tu addirittura, una musica, del cazzo, sì. Su Twitter dicono che devo essere sepolto vivo, devo uccidermi, vabbè, la pugna mi ha invaso il cervello. Twitter è così. Twitter è così, loro pensano che Battiato, Benigni, eccetera, sono i loro idoli. Benigni ha fatto 3%, un flop assoluto su Rai 2. Vogliamo dirla questa cosa? È morto, no? Come è morto televisivamente, diciamolo. No, tutto. Poveretto, no, no, televisivamente, televisivamente. Ah, no, era una replica, non era. Però insomma, 3%. Ma comunque, secondo me ha ragione Grillo quando dice che si può stare senza governo. Io sono di questa idea qua. Sì, questo hai ragione. Questo l'ho detto oggi anche ai miei che dicevano: ah, vergogna, non no, è così. No, finalmente. Oh, ecco. No, voglio dire, è chiaro che non si può stare senza governo, però. Visto che tutti sostengono che le cose da fare non sono quelle vere che sono da fare, cioè mettere noi italiani e in genere il mezzogiorno d'Europa a lavorare sodo per recuperare competitività, costringere la Germania ad essere espansiva nell'economia, insomma le cose vere che ce la fa, nessuno ne parla, tutti dicono che bisogna dimezzare i parlamentari, sì. Che non serve a niente, togliere l'auto blu alla Boldrini e magari darla a Grasso, e fare tutti questi giochini che poi si è visto che in Sicilia lì ci sono tutti quegli assessori di Grillo che girano sull'auto blu e prendono anche i rimborsi per la benzina pur non avendo la macchina. Allora, siccome questa è la situazione ridicola, legge elettorale, nessuno la vuole cambiare, diminuzione dei parlamentari, i parlamentari certo non lo faranno, farsi al rosso come fossero dei tacchini, dice, per fare queste 3-4 cose non serve un governo, le può fare il Parlamento, facciamo un'intesa. Ma è vero, è così, ma domani volendo uno può presentare un disegno di legge, il Parlamento è in funzione, si discute di una legge. Sì, invece la prassi vuole che il Parlamento non entri mai in funzione quando il governo non c'è. Vabbè, le prassi si possono anche cambiare, non è che non si possano cambiare. Ah, non c'è dubbio, sono d'accordo, ma io su queste cose qui di rivoluzione formale di Grillo sono d'accordo. Poi tutti pigliano per il culo, pigliano per il culo il povero professor Becchi, che è un professore di Genova, grillino, certo ha il suo carattere, eccetera. Non lo definirei però diciamo un insigne costituzionalista. Ma che c'entra? Ma gli insigni costituzionalisti ci hanno abituati a dire un sacco di cazzate. Il signor Zagrebeschi, il signor altre dicono un sacco di cazzate, ne dicono da secoli di cazzate su Berlusconi e su altre cose. Adesso non posso sentire il professor Becchi. Sì, io lo penso così, che quelli che sono considerati dei grandi costituzionalisti. Non mi interessa. Il problema è Parenzo. No, Parenzo dice piglia per il culo il professor Becchi dicendo che non è un insigne costituzionalista. Voi grillini l'avete trasformato quasi fosse il più grande costituzionalista del secolo vivente. Ma no, lui dice che si può stare senza governo come in Belgio, ed è vero, si può legiferare lo stesso, non è che si può stare. Ci voleva Becchi per saperlo. Ok, tu lo tratti come un ubriacone, diciamo la verità, Parenzo, lo tratti come un ubriacone. Tante volte dice delle strozzate e sei squipedale. Ma le dicono anche i costituzionalisti cosiddetti insigni che scrivono su Repubblica da anni, scrivono delle puttanate inaudite ogni tanto. Giuliano, dillo pure tu. Ma infatti, le sciocchezze le diciamo tutti, Parenzo. Dai, il problema è che Becchi le dice con un tono e con uno charme da vincitore elettorale, da consigliori del principe, che a te ti fa arrabbiare, ma insomma sai, le stupidaggini diciamo tutti. Io mi metto qui, non dico niente, niente di importante, parlo dell'attualità e dico solo che non siamo mai contenti, non tornano mai conti, questione di mentalità. Neanch'io sono contento nel mio mondo così com'è, così com'è. Nel paradiso posso aspettare un altro po', ma poi dov'è il paradiso? Ma chiuso. Poi dov'è il paradiso? Il paradiso aperto, chiuso, paradiso. Vorremmo tutti un mondo nuovo. Il mondo nuovo da solo non verrà. Beh, Claudio Zanoni, Benji Benati, Daniele Benji Benati, voce e chitarra qui dei Ridillo, autore della sigla della Zanzara, che noi gli abbiamo tranquillamente fottuto, con gentile concessione, con Giuliano Ferrara in diretta da Roma, un po' trafelato, ma alla sede del Foglio per decidere le sorti future del governo italiano. Ma come trafelato? Ma trafelato è un insulto bestiale. No, eri trafelato all'inizio, eri un po'... Eri un trafelato commercialista di Bari, non sono affatto trafelato, no. Sono tifosatissimo. Senti, ma Travaglio Grasso è una cosa pazzesca, diciamo. Come si fa a intervenire in diretta in una trasmissione a farsi sbeffeggiare da Grasso e da Santoro, da Travaglio e da Santoro? Dai, questa è un po' dura per me, perché tu sai benissimo come la penso e quindi per questo mi stai provocando. Io penso che Grasso è un tremendo furbacchione, che poteva candidarsi col PD, poteva candidarsi con Berlusconi. Dice che Berlusconi ha fatto le stragi, però anche no. Firma ma non firma, e Andreotti forse è colpevole ma anche no. È il tipo di italiano che io detesto di più al mondo. Addirittura. Poi subito dopo viene la Boldrini, che è umanitaria. Ma pure la Boldrini detesti, sì, come mai? Madonna, da morire. Beh, su questo. Poi, dopodiché, come mai la detesti la Boldrini? Travaglio è il prototipo del giornalista e del... Sì. Come dire, dello scrittore di mattinali di questura, che io non vorrei mai essere. I due litigano, non so che fare. Certo, ha ragione Travaglio, su questo non ci sono dubbi. In che senso ha ragione Travaglio? Ah, sul paraculismo. Io ho scritto una cosa su Grasso, che era appunto un furbastro, e Caselli mi aveva scritto dicendo Ferrara, noi non la pensiamo allo stesso modo, però in effetti un furbastro mi ha fatto del male, eccetera. E io gli dissi sì, procuratore Caselli, lei ha ragione. Insomma, era già successa questa cosa. Cioè, tu stai dicendo, ha ragione Travaglio quando dice che Grasso è un po' furbacchione? Sì, no. Molto furbacchione. Molto furbacchione, un vero e proprio paraculo. Se ti dico chi l'ha detta questa cosa paraculo, poi ti si drizzano i capelli. No, non lo so, tu sai che io non uso mai il turpiloquio. No, ma paraculo non è turpiloquio però. A parte che non è vero, perché hai detto dei grillini, delle cose no, tremende. No, come no, come no. No, io parlo sempre in modo molto forbito. No, quello sì, è vero, però ogni tanto, ultimamente anche, non so che... Sì, un po' il turpiloquio, intanto fa bene. Ma quando è che torni in televisione? Non lo so, adesso vediamo. Non te vuole più nessuno? Non lo so, sì, non mi vuole più nessuno, quindi non lo so. Però anch'io non è che voglio tanto fare la televisione. Nemmeno tu, effettivamente nemmeno tu. Mi piacciono i nuovi mezzi tecnologici. È meglio andare ospiti ogni tanto, così uno si può sfogare un po' di più, tanto non deve fare niente. Lì tanto è uguale alla fine, no? La differenza è che non te pagano ora a fare l'ospite. Poi non so se sopravviverò, perché sento parlare della Bonino. Allora ho fatto un tweet, ho già detto del suicidio della Torre Velasca, nei casi Rodotà eccetera, con Bonino mi faccio seppellire vivo. Addirittura? Sì, Napolitano pensaci. Allora, un bravo ragazzo ha detto, spero che Napolitano sia un suo follower. Sì. Ma 500-600 twitteroli hanno detto, che meraviglia, li fai seppellire vivo, che bello. Ma perché la Bonino ti fai seppellire vivo? Solo perché, solo radicale, l'aborto, queste cose qua, solo per queste cose qua, dai. Ma sì, ma poi niente, anche lei è una persona che mi è stato un antipatico mostruoso, proprio non la posso vedere. Beh, cioè, simpatica non è. Cioè, mamma mia, è un po' con Pannella, un po' con Teodori, un po' col PD, un po' col PD, un po' con la cosa, un po' contro la, però anche la cosa, poi le donne, poi l'ONU, poi tutto quello che io non sopporto, è sempre l'abominio di mezzo. E poi appunto è un abortista feroce. Però ormai le bombe della bicicletta, una cosa spaventosa. Vabbè, cose vecchie ormai, Giuliana. Sono cose vecchie. Ma sono cose. Senti, ma quanto sei innamorato della Berlinguer? Dimmi la verità. Ogni volta. Da morire, mi piace moltissimo. Ho capito, però. Che possiamo... Ma io niente, quei nomi lì per me ormai sono anche Flaminio Piccoli, anche Mariano Rumor, non solo Berlinguer, che diciamo fa parte della storia. Ho capito, però lì sto parlando della donna, la Berlinguer. Ma no, ma io. Vabbè, la donna che c'è, la donna è meravigliosa, però tu sai che io ho una preferenza assoluta, anche perché la Berlinguer è moglie di mio caro amico Luigi Manconi. Sì, per carità, questa preferenza assoluta per la. Adesso mi ricordo come dire, la Cuffaro, sì, la Cuffaro. Magari tutte e due insieme, tutte e due. La bellezza severa che veramente, diciamo, si addice a forme di venerazione, di adorazione. Silenziosa. Sì, io preferisco la signora Berlinguer, però, ma non c'è minimo dubbio. La Berlinguer è meravigliosa, ma ci ripeto, la moglie di un mio amico. È intoccabile, sì. Ma pure la Cuffaro è fidanzata, è felicemente fidanzata, credo. Ma cioè. Questo non so niente. Io te lo dico io, sì, è fidanzata. È felicemente fidanzata, ti dico questo. Cioè, so che era difficile l'incontro tra voi due, detto tra noi, però... Non si sa mai, eh. Ma se non dai voce al tuo pubblico della zanzara che vuole parlare della solita storia che bisogna diminuire gli stipendi dei parlamentari. Gli hai spiegato che diminuendo gli stipendi dei parlamentari loro diventano ricchi. Ma figurati, mai spiegato. E invece no, diminuendo gli stipendi dei parlamentari loro restano uomini comuni. Cioè, frustrati e non scoprono nemmeno in quel caso. Appunto. E quindi adesso devi dargli spazio a loro, non puoi stare. Adesso do lo spazio. Voglio un nome per il Quirinale. Il nome di Giuliano Ferrara per il Quirinale, io lo so qual è. Massimo da Ranieri? No, sì, Ranieri, magari. Massimo da D'Alema. Qual è il nome tuo? Ha perso quel vecchio charme da delinquente che aveva. E qual è il tuo nome? Dai, veloce. Una persona per bene pure lui. Nicola Latorre. Ma dai, Nicola Latorre, lui è... Ciao, a presto, ciao. Cosa fai? Questa sera cosa fai? C'è una festa. C'è una festa a casa mia, siamo io e te. Solo io e te. Festa in due, yeah, festa in due. Erano i Ridillo, grandissimi. Qui alla Zanzara, grazie. Buon concerto per stasera. 800 24 00 24 a Milano. Andate tutti in massa. Dov'è sto concerto? Al Raguri, alle Monza, è anche gratis, dai. Come gratis? È gratis. Sì. Ma veramente? Ma sì, è così, spending review. Spendi. Ciao, presto. Ciao. Gianluca da Ferrara, 800 24 00 24, la Zanzara. Sì, buonasera. Vada. Volevo dire, come si fa a dire che non, che l'Italia può stare senza governo? Come fa lei a dire questo? Senza governo un sacco di tempo, quasi due anni, e non mi pare che in Belgio, come dire, siano tutti, no, sull'astrico. Cioè, anzi, alcuni dati economici nel periodo del non governo sono addirittura migliorati. Per cui, guardi, un governo c'è, è in carica per l'ordinaria amministrazione, non c'è ma dubbio. Ma lei crede che i politici di Belgi siano come i nostri politici? Quello è un altro discorso, Gianluca. Allora, guardi, dai, io non penso. Lei che cosa si aspetta? Che arriva un governo e risolve con una bacchetta magica tutti i problemi? No. Vabbè, ho capito. Però io mi aspetto che, vista la situazione, possa la gente cambiare idea, soprattutto i nostri politici, anche se faccio molta fatica, come credo la pensi anche lei come me. Guardi, meglio il governo che c'è adesso, che pure combina disastri, per carità, sui Marò, eccetera, meglio un governo come quello che c'è adesso, piuttosto che un pasticcio pazzesco con gente che esce dalla camera, dall'aula. Facciamo a fare la legge elettorale? Cioè, Bersani aveva iniziato consultando Saviano ed è finito cercando i voti degli autonomisti, dei Miccichè, di quell'altro. Ma di che parliamo? Dai, su. E poi questa follia, quest'altra farsa che di questa sera qua, con una non rinuncia formale, ma una non rinuncia nei fatti. Cioè, non ha rinunciato. Sono tutte formule che gli italiani non capiscono. Cioè, la gente comune che ci sta ascoltando, i camionisti favolosi, i tassisti, gente ovunque, no? Cioè, casalinghe, gente che accende la radio per sentire la Zanzara in tutte le parti del globo terracqueo. E queste persone qua, che sono persone semplici, persone normali, no? Che cosa hanno capito stasera? Che Bersani ha rinunciato. E invece dalle segreterie dei partiti ti dicono no, non ha rinunciato. Ma chi se ne frega di quello che dice la segreteria del partito? Appunto. Io vedo Bersani che è andato da Napolitano e gli ha detto che rinuncia a fare il governo. No, che non ce l'ha fatta. Che non ce l'ha fatta. Allora, tanto di cappello a Bersani, che è stato onesto con se stesso e l'ha detto. Se poi voi giornalisti volete vendere l'informazione che Bersani è un povero sfigato e che rinuncia e che rovina. Ma chi ha detto che è un povero sfigato? Io non ho detto questo. Sembra che Bersani sia un povero sfigato perché perde leadership e perché ha avuto le palle, i coglioni in mano ed è andato da Napolitano e gli ha detto questo tanto. Se fosse stato uno stronzo qualunque, avrebbe fatto il figo dicendo che avrebbe montato su un governo fantoccio del cavolo. Allora, riconoscenza a chi un minimo. Sì, ma un accanimento terapeutico sulla questione di Bersani. Cioè, non, assolutamente. C'è un accanimento terapeutico per motivi interni al Partito Democratico. Questo è il punto. Motivi interni al Partito Democratico. Anche non c'è rispetto. Noi facciamo i giorni. Fa incazzare. Voi fate molto incazzare come trasmissione. Io vi ascolto molto. Meno male. Sono contento. Tante cazzate che la gente vi ascolta troppo. Dovreste dirne di meno, così guadagnereste anche meno soldi. Grazie. Grazie a te. Ciao, arrivederci. Ciao. terrorista in cinta e se no dormire. Zanza, zanza, zanzare. Pomate, pomadine, cipronella, ma color che niente fare. Zanza, zanza, zanzare. Deve Francesco d'Arezzo, buonasera Francesco d'Arezzo. Buonasera a voi. Vada. Il mio intervento, credo che Beppe Grillo e il Movimento 5 Stelle abbiano perso una grandissima opportunità, quella di provare a iniziare a cambiare. Tutto insieme mi hanno insegnato che non si può fare. Sì. È come quando uno entra dentro una stanza sporca, ma sporca, tanto sporca, si inizia a togliere il grosso, così si dice da noi. E questa era un'opportunità. Sì, ma se lei pensa che Grillo ragioni come gli altri partiti, ha sbagliato indirizzo. Ha sbagliato indirizzo. Cioè, lei non seguiva Grillo forse durante la campagna elettorale, caro. Io non so. Io non so cosa aveva votato. Io non so lei che cosa aveva votato. Senti, io ho votato per il PD. Sì. E ho votato per Monti. Ho votato per Monti perché credo che abbia fatto quello che i partiti non riuscivano a fare. E che doveva essere fatto. Quindi gli dovevo dare riconoscenza per questo. Sì, vabbè, d'accordo. Cioè, lui si è preso delle responsabilità che poi non aveva neanche. Sì, quindi... però Francesco, le chiacchiere stanno a zero. Veramente stanno a zero le chiacchiere. No, le chiacchiere non stanno a zero. Le chiacchiere stanno a zero. Il paese è messo male. Io faccio il rappresentante. Io tutti i giorni vedo che veramente... c'è la gente che non arriva in fondo al mese. Ma che vuol dire? Avere, ma cosa vuol dire? E non avere un governo dà un senso di instabilità totale. Sì, vabbè, allora dunque, per poi, dunque siccome c'è questa situazione... Secondo me gli doveva dare intanto la fiducia. Sì. E poi vedere come si comportava. Sì. Perché la fiducia gliel'avrebbe potuta togliere in qualsiasi momento. Vabbè, Francesco, il punto fondamentale è un altro, è che... avesse dato la fiducia, sarebbe stato contro tutto quello che aveva detto fino a quel momento Grillo. Ma sarebbe stato un atto di intelligenza. Vabbè, perché io rispetto la sua opinione. Raffaele della provincia di Avellino, buonasera. Raffaele? Mi sente Raffaele? Gianluca da Genova, buonasera. Sì, sì, pronto, mi senti? Sì. Sì, io volevo dire una cosa, sono un professore di filosofia. Sì. E... veramente sono esterrefatto del fatto che anche voi, come tutti quanti i mezzi di comunicazione italiani, date spazio a gente come Sgarbi, Ferrara, Parenzo, lei, che continuate a sostenere il Fondo Monetario Internazionale, tutto questo sistema. Chi è che, sosteniamo noi, scusi? Il Fondo Monetario Internazionale. Il Fondo Monetario Internazionale? Sì. Voi siete, ma lei è malato di mente? Ma lei è malato di mente? No, io sono professore di filosofia. E chi se ne frega? Cioè, lei può essere pure professore... Un po' di cultura. Ma quale cultura? Ma professore dove lei? Scusi, professore dove? Io sono professore a Genova. Ma professore dove? A scuola? A scuola. E professore di filosofia a scuola pure io lo posso fare, al posto suo. Come lo può fare? Che laurea c'ha lei? Non si preoccupi, io lo posso fare tranquillamente. Che laurea c'ha? Ma non si preoccupi. Laura, io ho telefonato, ma sono malato di mente. Ma certo, se lei dice che siamo tutti schiavi del Fondo Monetario Internazionale, compri io, Ferrara, lei deve essere ricoverato seduta stante. Ferrara? Sì. Io non so come possa parlare ancora al posto di altre persone ovunque. Sgarbi, che titoli ha? Cosa sa? Invece lei che titoli ha? Che è professore di filosofia? Io sono laureato, specializzato. Ah beh, mai coglioni. Beh, coglioni, sì. Questo sapete fare, dire parolacce, porcate, porcherie, sì. Tenere la gente nell'ignoranza, sì. Come voi. E poi vi lamentate 5 Stelle, PD, PDL, come se fosse tutto dipendesse da lì. Sì. Voi non vi rendete conto di una cosa, cari amici miei, che questo paese qui... è il paese con la più grande potenzialità culturale del mondo e purtroppo a causa di gente come voi rimane affossato. Hai capito, Parenzo? Tu sapevi di essere schiavo del Fondo Monetario Internazionale, Parenzo? No. Quando sono al 100%. Davide! Quando lei in tasca 5 euro ha il debito di un'altra persona, questa è la base dell'economia mondiale. Voi che siete del Sole 24 Ore non sapete, non dite mai neanche... continuate a parlare di Grillo. Ma che noi siamo parte della banda, capito? Questo voi è il punto. Siete i primi collusi. E beh, infatti, appunto. Io sto telefonando apposta per dire. Ma io sono orgoglioso. Ma io sono orgoglioso di far parte della banda dei criminali internazionali che rapina i poveri del mondo. Ma non avevo dubbi. E infatti per questo la chiamo, io senza insultarla, sì, le sto dicendo che tanti ragazzi giovani, sì, con quel che fare tutti i giorni sanno queste cose, che quando uno in tasca 50 euro c'ha il debito di un altro, e l'hanno capito senza andare in radio, senza essere Sgarbi, senza essere Ferrara, sì, senza andare a Uomini e Donne. Dov'è che si senza trova andare lei? A domenica. Io mi trovo a Genova. Sì, che zona esattamente? Io mi trovo, guardi, vuole il mio indirizzo di casa? Sì, sì, ma è più facile così, ha capito? Allora, io abito in via Pre 9. Via Pre 9? Sì, è una via multietnica, piena di persone provenienti da tutto il mondo. Ma dove ci stavano le mignotte prima una volta? Sì, quando era giovane lei. Sì, quando ero giovane io, sì. Può darsi. Sì. Quando ero giovane io, sì, sì. Adesso l'hanno spostato dalla Maddalena, e anche le mignotte sanno, sì, che siete tutti dei servi. Del non c'è dubbio. Via Pre 9, eh? Via Pre 9. Sì, lo sanno anche loro. Come si chiama di cognome lei? Io, Grasso, Gianluca Grasso, via Pre 9. Finalmente abbiamo un indirizzo sicuro, preciso, col civico. C'è citofono, c'è? A fare una ripetizione, visto che siete ignoranti. Sì, come ma le guardi, adesso arrivano subito un paio di persone. Lei può raccontare tutte le cose che vuole a queste persone. Il Fondo Monetario Internazionale, che siamo schiavi, eccetera. Può raccontare tutto a questi signori. Via Pre 9, sul. Sì, ma guardi, che non è che lei non ha argomenti da contrabattere, perché a parte, sì, che non sa le cose, no, prima cosa. Seconda cosa, anche se le sapesse, se lei dicesse queste cose, la licenzierebbero. Sì. Ha capito? Ah, guardi, mi licenzierebbero. Perché d'altra parte, appena uno sa due cose, che appena si informa e studia, in questo paese non ha nessuna carica, sì, e nessuna possibilità di esprimersi. Lei ha caccia di cariche, mi sembra, no? No, io ho il mio lavoro, guardi, sono precario come tanti, come, sì, quasi sono 2 milioni di disoccupati, 10, sì, milioni di precari, ma voi ve ne battete il velino, come diciamo qua da Niatri, hai capito? Sì. Perché ve ne fregate. Poi vabbè, voi siete lavorateci, ma io lo rispetto anche per voi, non vi ho insultato. Beh, no, lei ha rispetto per noi, per carità, ma poteva anche, certo, non averlo. Però vi sto dicendo la verità, date spazio a Sgarbi, Ferrara, adesso avete insultato Grasso, Travagli, insultate la gente, mi fate mere sirene come se vi venite a prendere. Cosa pensate? Ma vi sembra, sì, cultura, vi sembra informazione, cultura, mi sembra una radio libera. Mettete la canzone di Sinardi, che radio libera la mente, e poi insultate la gente, i professori che chiamano. Io che ho 30 anni e mi insultate così, perché dico che siamo schiavi del fondo monetario. Sì, perché se c'hai 50 euro in tasca, hai il debito di un'altra persona. Le lezioni di Gianluca da Genova, via Pre 9, certo, a Correggio. Magari potessi avere lo spazio che avete voi, direi tante di quelle cazzate in meno, guardi, che lei non sa neanche bravo, a bravo, idee. Accorrete tutti, via Pre 9. E soprattutto io, a differenza sua, conosco l'italiano, visto che lei penso che conosca il ciociaro a grandi abbastanza linee, bene, anche il dialetto. Abbastanza, lo conosco, mio ciociari. Lo conosco, ciociari non c'entra nulla. Con tutto il rispetto per i grandi ciociari. Sì, appunto, caro mio ciociari, a parte che io la ciociaria non ho nulla a che fare, la adoro, però la ciociaria, e poi comunque anch'io. È caro il mio ciociaro, non ciociari, a proposito di italiano. Ma no, ma lei si chiama Cruciani e io la chiamo ciociari. Ah, ciociari. Non le dico che è un malato di mente. Sì, ma lei pensa che io sono servo del Fondo Monetario Internazionale, io ribadisco, lei è un malato di mente. No, ma anch'io sono servo del Fondo Monetario Internazionale, siamo, sì, tutti servi, capisce? Sì. È lì il problema. Purtroppo, però, il Fondo Monetario Internazionale governa tutto il mondo. Ah. Quindi è inutile che facciamo Grillo, PD, PDL, PD meno. Non c'è niente. Qua regna in Italia, abbiamo una sola via d'uscita. Qual è? Lo posso dire con tutto il cuore. Siamo il paese di quelle, sì, persone che se non ci fossero questi qua, Sgarbi. Il problema Ferrara, è Sgarbi adesso. Lei, sì. Zecchi, poi allora pure il professor Zecchi arriva a qua, lei, Parenzo, sì, Santoro, Ballarò, Ballarin, Ballaran, questa gente qua, ci fosse altra gente, saremmo il paese ancora più bello del mondo. Purtroppo. Purtroppo ci siamo noi. No, ma non lei. Se ne faccia una ragione, caro Gianluca. Torni nella sua depressione quotidiana, torni nella sua quotidiana frustrazione, e dall'alto della sua scienza professorale, essendo lei, come dire, laureato in che cosa? Scusi, Gianluca. Io sono laureato in metodologie filosofiche con 110 lode all'Università Statale di Genova, con il professore conosciuto in tutto il mondo, Paolo Aldo Rossi, che se ci sentirà lo ammazzalo. Saluto. mica Gazzi, dice lei, no? Quindi visto che mica Bruscolini. Ma guardi, caro mio Cruciani, sì. Io vi ascolto quasi tutte le sere, qua siamo in compagnia. Bene, perché noi siamo molto felici. Anche bene. Siamo però molto felici, sì. Siamo... Lei insulta la gente che dice le cose che come stanno. Amico mio, qui io lei sta parlando da sette minuti. Lei sta parlando da 7-8 minuti praticamente ininterrotto, in cui sta vomitando tutte le sue cose. Senta, stia calmo Gianluca, lei sta parlando, a proposito di censure, a proposito del fatto che lei non può parlare, non può dire la sua, da 7 minuti quasi ininterrotto, in cui ha cominciato a dire che siamo schiavi del Fondo Monetario Internazionale, che se non ci fossimo noi l'Italia andrebbe a gonfie vele, e adesso mi viene a me a dire qualcosa. Ma io la mando a fare in culo, pubblicità. Ma io sei un massone come gli altri. Io voglio fare una rubrica, i tweet, i piccoli pensieri, come chiamarla? Le piccole nuvolette di Fabrizio Rondolino. Voglio inventarmi questa rubrica. Allora, vi leggo solo questo. Soltanto un bandito senza principio, un disperato alla canna del gas, rifiuta di restituire l'incarico quando tutti gli hanno detto no. Ma perché ce l'ha così con Bersani? Perché ce l'ha con Bersani? Perché fa un ragionamento politico, dai, nella realtà è questo. Ha spiegato Ferrara però, eh? Il principio, qual è? Ma qual è? Oh, ma svegliate, Parenzo, su, sveglia! Ti sento lontano. Ma che mi senti lontano, su, sveglia! Ma dove sei, a numero fisso? Sì. Che cazzo, su, dai! Mi fai venire la cosa, mi fai venire la latte alle ginocchia oggi. C'è un preincarico congelato dopo una non vittoria, scrive Rondolino. Ma ha ragione, è una cosa surreale. Io lo dico con affetto, non ho nulla contro la persona. Bersani ha perso le elezioni, le ha perse. Cioè, come prospettiva politica, come obiettivo, le elezioni non è che si vincono perché c'è il porcellum alla Camera. Le si vince perché uno ha un obiettivo politico. Questo obiettivo politico non è stato raggiunto. Dunque, Bersani è uno sconfitto delle elezioni. Nonostante questo, per forza l'incarico, viene sputtanato da Grillo ogni giorno, gli dicono di no tutti. Niente, non è che vada Napoliano e dice non ce l'ho fatta, guardi Presidente, non ce l'ho fatta, arrivederci e grazie. No, preincarico congelato, cioè non si può dire che ha rinunciato. Ma dai, su ragazzi, ma di che stiamo parlando, dai? Ma ci vuole anche un po' di chiarezza di fronte agli italiani, no? Un po' di chiarezza, non ce l'ho fatta, basta, ho perso. Oggi, in questi giorni, al Senato, me l'hanno detto un sacco di persone, si sono messi a fare i calcoli dei gruppi, voto di qui, voto di là. Lo dicevamo, ma non è normale. Quando lo faceva Berlusconi, caro Parenzo, tu lanciavi saette, fulmini, quando lo faceva Berlusconi, di andare a pescare qua là deputati di altri. Questo è normalissimo, dice adesso da Israele, seduto lì in poltrona o steso sul letto di un albergo. Ma questo è normalissimo, ma vaffanculo, va! L'accidente che... Questo è normalissimo. Quando lo faceva con Berlusconi, ma una vergogna, la compravendita, gli altri gruppi. No, adesso, ma questo è normalissimo. Ma guarda, non mi fare incazzare, che già ne ho dette troppe stasera. Giovanni da Treviso, buonasera, Giovanni. Buonasera Giuseppe, buonasera, complimenti per la trasmissione e grazie, siete compagni di viaggio, di molti viaggi miei. Sto sentendo che Bersani non ha rifiutato ancora l'incarico, bisogna fermarlo assolutamente. Sì. Cioè, anche dalla diretta streaming che abbiamo visto ieri. Ma dai, un'umiliazione pazzesca, farsi umiliare da quei due parvenu. Questo gioca d'anticipo col Papa, adesso gli lava pure i piedi ai grillini, ho pensato tra poco, no? Dico, è impossibile, è finito, cioè è depresso, con tutto il rispetto che posso avere per la persona, perché può essere umile, però non possiamo dare un incarico, e soprattutto col nostro paese che è messo in queste condizioni, e farci rappresentare in Europa da Bersani, che in questo momento secondo me è impossibilitato. Non ce comunque la fa, ragazzi, non ce la fa. Il pre-incarico congelato non si può sentire, cioè voi mettete insieme queste tre cose, pre-incarico congelato, cercatelo di spiegare a un povero camionista o un tassista che ci sta seguendo in diretta qui, e sono tantissimi per fortuna, la Zanzara, un pre-incarico congelato, e uno dice ma perché, ma, guarda, lasciamo perdere, poi dice che non ha ragione Grillo, non ha ragione Grillo quando dice che vuole governare da solo, ma come si può fare una cosa di questo tipo? Il pre-incarico congelato! Comunque bisogna ascoltarlo, Grillo, di più. Bisogna ascoltarlo, anche quando dice che si può governare senza governo, ha ragione. Il pre-incarico congelato, ma ragazzi, ma va bene tutto, io sono appassionato di politica, i suoi contorcimenti, le sue trattative, però a un certo punto tutto deve essere reso anche un po' più chiaro. Il pre-incarico congelato, mandategliela a spiegare veramente alla gente che magari ha difficoltà. Abbiamo bisogno di una persona completamente diversa, una persona creativa, una persona, adesso non so, chi era questo qua, Giovanni, grazie. Ma è Marco dalla provincia di Ancona, buonasera. Buonasera. Con Napolitano, allora. Non ho capito, scusa, da Israele che cosa dici? Seduto sul letto con un cocktail. Ma io non sono arrabbiato, figurati se sono arrabbiato con Napolitano, che è il numero uno assoluto. E Napolitano fa anche quello che gli dicono i partiti, non è che può fare troppo di testa sua. Cioè, poi a un certo punto prenderà in mano la situazione da domani e dirà a tutti state calmi, state buonini, adesso decido io. Però il pre-incarico congelato, oggettivamente, anche se l'ha detto Cascella, che è il portavoce di Napolitano, è un'espressione che si può sentire. Cioè, non è si una può... forma di Napolitano, perché devo prendere tempo e vedere che succede. Vabbè, ma per te è tutto normale, va bene. Doramo, Marco dalla provincia di Ancona, su. Ma niente, volevo complimentarmi con lei perché è un genio per me. La politica è una farsa, è diventata una farsa, quindi la sua trasmissione rappresenta appieno questa farsa, e per me è geniale, ecco, da tutte le variazioni che ha fatto nel corso degli anni. Ultimamente devo dire un po' troppo volgare, però a parte quello, complimenti, ecco qua. Vabbè, che voleva fare? Voleva fare complimenti? Sì, no, semplicemente dire che era per me una grande creativo, un grande creativo, e che poi soprattutto noi che quando torniamo a casa la sera ci facciamo quelle quattro risate sane sentendola, che insomma fanno comodo, no? Bene, grazie, vabbè, stavolta guarda, siccome sono incazzato accetto pure sto complimento, di solito ma perché sei incazzato? No, mi sono incazzato, il pre-incarico congelato mi ha mandato fuori di testa, cioè mi ha fatto venire il sangue al cervello, il pre-incarico congelato è una roba che allora, non si possa... chiamalo stallo, il coso, il Findus, dai, il Findus, dai, su, ma di che stiamo parlando, dai. Ma cosa fai, baby? Mi alzo dal letto. E cosa fai, baby? E corro allo specchio. E cosa fai, baby? Adesso mi trucco. Fuori è quasi notte. Tra poco esco. Princess, you are. You are. You are a princess. Sono l'amante dei camionisti della 14 e gli auguro a tutti buon viaggio, e mi vogliono tanto bene. Però vogliono anche altre cose oltre a volere bene, diciamo, no? Sì, dai, sì, ma te l'ho detto, si scaricano. Come che faccio l'autista e faccio sempre la 14, no? Sì, allora, eccolo qua. Sta al parcheggio all'anno, avete detto, come si chiama? Quelli sta dopo la salita di Vasto Nord, quelli mo è 40 anni che faccio l'autista, no? Sì. Quelli sta sempre fermo là, io la vedo tutte le settimane che passo, non dà fastidio a nessuno. 20 euro per fare cosa, scusa? Beh. Totale, servizio completo. Cioè 20 euro servizio completo che vuol dire, scusa? Si scarica il sovraccarico da dietro, no? È il sovraccarico perché quando vanno pesanti, sai, io ve lo scarico un po' da dietro e va bene così. Anzi, due non lo scaricano a me, aspetta, sto sbagliando. Ti posso dire che bella, bionda, due tettone, tena un fisico che non te ne dico. Io la saluto, se so che non ti sa il numero. Io ieri ma stavo con un maiale, colleghi, no? Ma perché un maiale? Che vuol dire? Ma dai, ma che deve parlare delle sue... ridere, è una brava persona. Il numero come si deve fare? Non è che gli posso non è che le posso dare sporconerie, parla al telefono. Per essere me stessa ho avuto le palle e voi che giudicate. 20 euro per tutta questa serie di servizi mi sembra un po' poco come cosa. Ma tanto se aumenti i prezzi c'è la crisi, poi i camionisti li dovete calcolare di più. Ma noi li calcoliamo molti i viaggi e quindi è per la crisi che c'è, 20 euro di più no, ma la ventina si può fare, ecco. Una ventina si può fare. Scusi Nicola, ma com'è, brava? No, una persona correttissima. No, ma al di là di questo, ma cosa vuol dire corretta? Beh, brava o no? È brava o no? Ah, fare quelle cose spettacolari, è maestra. E continua l'epopea di Susi della A14. Antonio dalla provincia di Cremona, buonasera. C'è mica buonasera Cusani e buonasera Parenzo. Sì, sì, Parenzo, state zitto che è meglio stasera, va, stai zitto. Appunto, stai zitto, va. Stai zitto, e tanto non hai voglia, sei lontano, stai sopra il letto, dici cazzate, è meglio che te stai zitto. Antonio dalla provincia di Cremona. Lontanissimo. Ma sarà un problema tuo che mi senti lontano, sei andato in Israele, Antonio dalla provincia di Cremona. Domani attivo il mio cellulare così sei. No, ma attiva quello che te pare, ma... Glielo dico che se lo vedo gli do una bastonata in testa a questo io. A proposito, non è che potrebbe essere in Israele il busto dell'ammirante, no? Potrebbe essere a Ramallah, lo posso adesso, domani mi informo, potrebbero averlo segnalato a Ramallah. Ma non faccio il cretino, non faccio il cretino. Antonio, allora? Sì, senta, io ho chiamato perché sono abbastanza incazzato, per un semplice motivo. E perché motivo. L'è incazzato, di grazia? Ma sono incazzato perché continua a chiamare gente, dice, ma Beppe Grillo, ma doveva fare l'inciuccio col PD, io l'ho votato, io adesso non gli do più il voto, se ci dovesse essere possibile, cioè, andate a fare in culo. In che senso? Beppe Grillo ha detto sin dall'inizio che gli inciucci con Gargamella e Mastrolindo non li fa. Bravo. Quindi questa gente dove cazzo era? Dove cazzo era? Bravo, bravo, lei ha ragione, lei ha perfettamente ragione. Adesso chi si lamenta dicendo no, ma bisognava fare l'accordo con il Partito Democratico, la governabilità, Berlusconi, tutte queste cose qua. Adesso queste persone qua dovrebbero andarsi a risentire quello che Grillo diceva in campagna elettorale. E loro magari godevano, no? Gargamella, i partiti vanno distrutti, bisognerebbe mettere una bomba, Al-Qaeda dovrebbe colpire il Parlamento italiano e dava pure le coordinate. Grillo diceva questo, nel bene o nel male, diceva questo. Dunque, muti, zitti a casa. Ma sì, ma che dia le coordinate, ma che cazzo ce ne frega, no? E probabilmente Al-Qaeda non lancia neanche i missili, non vuole neanche spiegare il titolo per quattro sfigati che abbiamo in Parlamento, dai, che può essere solo un danno che resta, meglio che ce li teniamo questi quattro gatti e continuiamo a governare col PD e col PDL. Albertini, vieni giù, che sei frocio pure tu. Tu sei come una piccola zanzara. Per te tutto sempre facile. Primo da Bologna, buonasera signor Primo da Bologna, che mi dicono essere un tassista. Io faccio il tassista. Beh. Stasera nel vedere l'onorevole Bersani col capo chino ho provato un'immensa gioia, piacere e godimento. Addirittura, Primo. Addirittura, perché nel 2006 lui con i suoi lenzuoli da fantasma ci voleva ammazzare tutti, e adesso invece vediamo la sua fine politica. Non è vero. È vero, lo chiede a Parenzo, che lui con i tassistici ci azzuppa anche lui, è sempre sopra e giù dai taxi. Hai capito? No, ma io ho detto che ero a favore delle liberalizzazioni, ma poi capisco che le categorie si incazzino, ma non vedo il problema. Vabbè, lei ha goduto stasera, Primo, no? Io ho goduto tantissimo, spero che lui sparisca dal panorama politico, perché è un inconcludente, è debole, è forte coi deboli e debole coi forti. Vabbè, ma dai, non è adesso, non esageriamo, su, dai. No, la vita è fatta anche di queste piccole cose, ogni tanto la sconfitta degli altri fa godere. Vabbè, ma per carità, ma infatti non c'è niente di altro. Cioè, noi facciamo il perché Bersani, come molti altri, voleva liberalizzare il mondo. Vabbè, ma adesso non fare il moderato. Primo, sta godendo perché il suo avversario storico, come dire, no? Il suo avversario storico Bersani è un po' nei guai, giusto, Primo? Ma penso che anche i farmacisti, i notai, gli avvocati, in questo momento vedere la sua faccia a capochino felicità. I farmacisti e i notai, i farmacisti e i notai, adesso lasciamo perdere i tassisti. Ma i farmacisti e i notai adesso francamente anche lì una bella ripulitura ci vorrebbe, una bella ondata di liberalizzazioni, togliendo ordini, esami e queste stronzate. Comunque, andrebbe fatta, i notai se li sono creati loro, non sono creati da spuntati in mezzo al campo. Ma che vuol dire? Svolgono un servizio di sostituto di imposta per lo Stato, lo sanno tutti questo. Quindi il concorso da notaio se lo sono sempre pilotate loro a livello politico. Vabbè, adesso lasciamo perdere i concorsi da notaio. Primo, lei come sta viaggiando adesso? Ci sono clienti, non ci sono clienti? No, guadagna. Io sono vuoto, sono riuscito a prendere la linea e questo mi ha dato un'immensa gioia. Beh, io vi ascolto tutte le sere. E mi dispiace che contro di noi si sia scatenata una campagna mediatica senza senso. Ma quale? Ma ormai gestiamo il suo potere. Ma è una vita che non si. Che non si parla più. Speriamo che questa cosa sia morta e sepolta, perché adesso cambia il governo, arriva un altro. È arrivato Monti e subito Bersani dietro col fuoco e i bracieri a fare fiamme, ad alimentare. Cioè, non possiamo andare avanti così. Noi abbiamo anche una famiglia, dei figli, tutte le sere siamo fuori, acqua, neve, gelo, cioè svolgiamo un ottimo servizio per la collettività, al di là delle pecore nere che ogni tanto saltano fuori, però insomma esistono di tutte le categorie, non guardiamo i politici perché sennò ci mettiamo a ridere. Viva i tassisti, grazie! Quando la zanzarita tormenta la mia noce. Beh, caro Parenzo, che sei in Israele nulla facente sul letto, ti presento un grande personaggio, un grande ritorno alla zanzara, Marina Ripa di Meana. Buonasera. Buonasera, buonasera. Anch'io saluto tutti i taxisti che sento sempre, consulto nei miei vari viaggi nelle città e anche a Roma in giro, che prendo sempre e sempre parlo con loro e sono sempre simpaticissimi. Un grande polso, si dice, i tassisti. Marina Ripa, che saluto, la incontro sempre in una palestra a Prati di cui non farò il nome, ma dove ci vediamo a fare gli esercizi. Cioè, ci vediamo, tu vedi lei perché lei te conosce, dunque non ma ti può vedere. Ma si può benissimo fare il nome, no? Si può benissimo fare il nome, certo, facciamo il nome, noi ce ne freghiamo di queste cose qua. No, faccia il nome lei, signora Marina Ripa di Meana. No, non lo ricordo. Ah, come non se lo ricordo, benissimo. Ma lei che palestra di fronte di via Giulio Cesare. La palestra di Giulio Cesare. Ci siamo visti più volte lì sul Tapirulan, lei bravissima, io un po' arranco un po', ma insomma... Ma è la stessa palestra di Travaglio, però. No, una palestrata ad hoc. Ma lei che va a fare, scusi, signora Ripa di Meana, se mi posso permettere? Lei è libero, peraltro. Cioè, va perché non dovrei andare in palestra? Perché lei sostiene che persone di una certa non dovrebbero andare in palestra. No, perché adesso non è che c'è la coda di paglia, lei, scusi, signora Ripa di Meana. No, assolutamente. No, ma ho scritto un libro che stava avendo molto successo. Invecchierò, ma con calma. Allora... Sono forse per questo. No, per carità, no, non mi sembrava un tipo da fare. Invecchio con calma, perché vado in palestra. Cioè, invecchia lentamente. Sul tapirulà. Ma che cosa fa in palestra, per curiosità? La stessa palestra di chi? Scusa, Parenzo, non ho capito bene. Mia, sua, di Travaglio, della moglie di Gaetano, della terza moglie, mi pare, dell'ultima moglie, insomma, di Gaetano Pecorella. E poi? E poi chi è che c'è? Ma Travaglio non l'ho mai incontrato, per la verità. Secondo me non va a Travaglio. Travaglio non l'ho mai incontrato, anzi, peccato, perché è un bel ragazzo. Bel ragazzo? Le piace Travaglio? Insomma, non è male. Una bella storia. Mi piacerebbe vederlo in palestra. E non solo in palestra, diciamo la verità. No, adesso non ci slarghiamo troppo. Perché no? Una bella storia, sarebbe una cosa clamorosa. Storia Travaglio Marina Ripa di Meana. Potremmo anche finire... a insulti magari, chissà. Beh, su Craxi signora credo di sì, su Craxi sì, giorno, è vero, la sa, vede, io sono molto sostenitrice di quella campana lì, lo so. Parenzo ancora non ha capito, dopo anni di radio, che quando è in collegamento da un posto soprattutto lontano non deve sovrapporsi con la voce, dunque ogni tanto nella sua totale ignoranza si inserisce lo stesso con la voce. Vabbè, no, che... ma è simpatico eccetera. Comunque abbiamo appreso una cosa, che la signora Ripa di Meana piace Travaglio, ecco, questo è un dato di fatto. Adesso, al di là a me di... sì, a me piace. Ma cosa le piace? Anche se non la penso sempre come lui, lo trovo certe volte esagerato, sì. Condivido anche molte sue idee e sono molto una sua ammiratrice. Un'ammiratrice, lui sarà contento sicuramente di questa cosa, però voglio capire... Mi resta solo di incontrarlo in palestra. Ma scusi, cosa le piace fisicamente di Travaglio? Insomma, bel ragazzo, non è che piace solo a me, piace a tante. Bah, sì, ma bel ragazzo, non esageriamo, su, dai. Ma lei è invidiosa, mi sa. No, invidioso, guardi, io se c'è una cosa che non ho è l'invidia, perché non... Beh, tutti dicono così, quanto più sei, guardi, io se non ho mai sentito dire da una persona io sono invidioso, tutti dicono non siamo mai invidiosi. Io lo dico, di certe persone sono molto invidiose. Di chi è invidiosa lei, per esempio? per esempio di Ornella Vanoni, che ha una voce pazzesca, ha la voce per cantare. Però è invidiosa della voce, non è essere veramente gelosi di una persona, dire che sono geloso della voce di Ornella Vanoni. Sì, che vuol dire? Lei mica fa la cantante, però. È qualcosa che mi è sfuggito, per esempio, ma mi sarebbe molto piaciuto. Ma lei che ha fatto nella vita di mestiere? Ne ho fatti tanti di mestiere. Spesso. Soprattutto adesso mi accingo, un po' di anni che scrivo, però la mia attività principale è stata quella della moda, no? Della moda, sì. Cioè. Però uno se deve definire che mestiere fa, tu lo sai, Parenzo. È bello questo, perché se difatti mi chiedono se ne ho fatti talmente tanti che alla fine non ha fatto un cazzo. Mestiere, va bene così, sono una, come si dice, una dilettante in tutto, non ho mai preso una patente. Beh, se l'è potuto permettere anche, se l'è potuto permettere. No, va bene, ma così mi piace saltare da una parte all'altra. Sì. Però adesso sono un po' di anni che scrivo, ecco, che i libri sono anche stati abbastanza dei successi, sono stati fatti dei film dai miei libri, insomma non mi posso lamentare, quasi possiamo quasi dire che sono entrata in quella categoria, sì. Magari gli scrittori orripilano, però insomma lì sono, i miei libri si vendono, se ne parla, e beh insomma ecco, facciamo un po' così, diciamo. Capito, Parenzo? Il personaggio è un ambientalista, tutti ricordano che ci siamo. Vabbè, siamo ambientalista, ormai siamo tutti, siamo tutti ambientalisti, dai. Beh, io lo sono fatto, ho fatto delle campagne proprio molto toste. Per le pellicce, ti ricordi? Per le pellicce, per salvare il Pincio, per Piazza Farnese, insomma, campagne toste che si ricordano. Io queste. Odio gli ambientalisti. Però non è un mestiere, ecco, voglio dire, non è un lavoro, no, è fatto per passione. La campagna della signora Riba. Sì, ma io trovo gli ambientalisti non li posso vedere. Ma no, non ti ricordi la campagna che lei sì, fece? Sì, come non me lo ricordo, sì, come certo, me lo ricordo. Mi ricordo tutto, che c'entra, però non gli ambientalisti proprio fanatici. Cioè, Lei. Dicono non si mangia carne, non ci si mette le scarpe, no, quella roba lì, io non lo sono mai stata. La verità sono sempre stata anch'io di quel pensiero che... Però, insomma, salvaguardare certe cose, essere un po' attenti a certe cose, sì, perché oggi non si possono considerare che ancora oggi ci siano delle sciure che si comprano le pellicce, quello mi fa orrore, ecco. Beh, perché le pellicce? Perché che male. Si portano dei cadaveri addosso, no, che orrore. Vabbè, ecco. Ma perché le pellicce sono brutte in realtà, però non c'è niente di male a comprarsi... Come non c'è niente di male? Sono... milioni di cadaveri, di animali che si mettono addosso per pura vanità, è un orrore. Lei è contro la caccia? Sono contro la caccia, naturalmente. Come certo, la brambilla, certo. Come la brambilla, si rende conto? Ma come... per carità, no, io sposo molto l'idea della brambilla, quasi tutti, ha fatto molto per noi ambientalisti, anche quello di poter portare i cani sui treni, una cosa meravigliosa. Importantissimo. È stata brava la Maria Vittoria, come si chiama? Maria Vittoria. Sì, Maria... Anna ma Vittoria, è fondamentale, Maria. Perché se non si potesse portare i cani sui treni ci sarebbero dei drammi in tutto il paese, non c'è dubbio. Insomma, ha fatto. Scusi, ci arriva di male, ma questa è una Torniamo a bomba su Travaglio, che è un bell'uomo, diciamo. La prova dei cani nei treni non li sopporto. No, però Travaglio è un bell'uomo, la cosa che mi interessa di più, perché non è, io le assicuro che non sono invidioso, e, per carità, la considero una bellissima donna. Non è che sia un bell'uomo, è un uomo che ha il suo fascino. Cioè lei... se potesse avere una storia di sesso con Travaglio, glielo dico molto chiaramente. Io sono una donna ormai che ha una certa, come si dice, non ma sono fuori da questo? Quei giochi. Come fuori? Perché non va più, non, come si dice? No, ma non entriamo in questi meandri, per carità. Io sono qui a parlare del mio libro, invecchierò, ma con calma, figuriamoci se parlo di sesso. Ah, il sesso è fondamentale però. Scusi, invecchierò, ma con calma. Il sesso è fondamentale, però nel mio libro do delle precisazioni su questo. Cioè, in che senso, per esempio? Per esempio che a un certo punto della mia vita anche l'amore coniugale lo contemplo con grande racconto del mio rapporto riuscito, senza stranamente, sesso. Perché non si sa come, però riuscito in un matrimonio con mio marito Carlo Ripa di Veana. Cioè senza cui sesso, vede dice che, al di là, ecco, il mio pensiero per Travaglio è di tutt'altro genere, ecco. Sì, di tutt'altro, certo, non è diciamo di tipo, cioè mi sta dicendo che lei ha abbandonato qualsiasi velleità di rapporti sessuali, no? Insomma, io non ho sposo più quel pensiero, effettivamente. Poi, anche se lo sposasse, non glielo verrei a raccontare a lei. E perché no? E qui è una casa trasparente, aperta, guardi. È un confessionale questo qua. Questo... Questo da noi funziona così, è un confessionale. È un mezzo confessionale. Scusi, ma lei mica ha 85 anni, cioè, al sesso non si può mai rinunciare. No, insomma, comunque c'è una certa età e non è che si rinuncia, il sesso è qualcosa che può essere anche nelle passioni che si ha per le cose che si fanno, eh? Si mette molto eros anche in quello. Beh sì, però poi alla fine. Beh, però lei non è di quest'idea, la vedo molto molto terra terra, che proprio. Beh, terra terra. Adesso terra terra, adesso non è che si unita. Ma lei vede proprio il fornicare più totale in quello. Beh, guardi che la cosa non mi dispiace, insomma, adesso mi fa piacere. Io ho fornicato molto nella vita e effettivamente ora non ne sento più questa necessità a una certa età. Per cui si può dire comunque che nel libro lo racconto. Lo racconta, certo, questo, per carità. Racconto anche delle mie fornicazioni. Delle sue fornicazioni. Ma scusi, le posso fare una domanda molto personale? Sì. Molto, molto, molto. Ma lei da quanto tempo non lo fa? Scusi, no, scusi, ma... scusi, io l'ho chiesto, lo so, mi sono già pentito, però mi è venuto così, le assicuro che mi è venuto senza, lo so. Beh, meglio, come gli è venuto se lo rimangi, guardi, perché sono domande che non si fanno a una signora. Un paio d'anni. A una signora. No, perché? A una sciura. No, sciura, no. Traffico. Una sciura signora. Io ti devo salutare, ci sentiamo domani. No, ma tu non saluti nessuno. Aspetta un attimo. Aspetta, perché ti sento anche malissimo. Domani no, ci risentiamo. 5 minuti, ma tu non puoi fare il pazzo così. Scusa, un attimo solo, dobbiamo finire. Venga lei per dire a questo scostumato che si inoltra in domande che no, non ma c'ha ragione. Ti lascio il cellulare, devi chiamare domani. Davide, 0, abbi pazienza, 0. Mancano 3 minuti. Non mi rompere le scatole, no, ha messo in imbarazzo 4, anche lui, ha visto. Ma no, ma non ha messo in imbarazzo. È in Israele, ogni volta mi fa questi scherzetti. La trasmissione dura fino alle 9, un attimo solo, 3 minuti. Devo staccare, ci sentiamo domani. No, non posso, dobbiamo finire l'intervista, non la posso intervistare solo io, signora Di Palimiare, che sono scostumato. Ha bisogno anche di un attimo di tranquillità, anche di... Io sono qui. No, io sono... lei ha bisogno di un attimo di tranquillità e anche non di confrontarsi solo con uno scostumato come me, ma anche con una persona seria come Parenzo. Oh, David Parenzo in collegamento da Tel Aviv, Israele. Marina Ripa di Meana, invecchierò ma con calma, così facciamo pure un bel marchettone. Mondadori in collegamento con noi, ha appena detto delle cose pazzesche sul suo rapporto con il sesso. Però io voglio chiedere una cosa su lei: che cosa ha votato, signora Ripa di Meana? Che cosa? Ha votato? Ma scusi, ma lei mi fa delle domande, io non ho votato, l'ho detto e lo ridico. E io che ne non so, ma non più. È che la seguo quotidianamente? No, però mi fa delle domande troppo intime. Chi ma ha intime votato? A votare, chi ha votato? Non è che sto chiedendo al Papa, ma scusi. Ma si chiedono, sono cose personali, comunque non voto non più. Ha votato, non ha votato. No. Non ha votato, nulla, non le piaceva nessuno. No. Bersani? No, ma per carità, Bersani, ma vede che quello che sta succedendo, sta prendendo schiaffi in faccia, porte in faccia tutte le sere, ancora insiste, più branato di così come si può essere? Imbranato. Ci vorrebbe signor allora... Carlo Ripa. Ci vorrebbe suo marito, dice lei, no? Dice Parenzo. Difatti, l'ultima volta che ho votato era quando Carlo era nei Verdi, poi non ho più votato. Non ha più votato nessuno lei? Berlusconi, no. Mai? No. Mai, eh? Beh, poi soprattutto dopo le ultime cose, no? No, beh, insomma... Non, beh, no. Mi astengo. Rubi e dintorni, no? No, mi astengo, ma non voglio fare commenti, non peggio di altri. La politica, insomma, vede come stanno andando le cose. Ci abbiamo già Battiato che è andato fuori, messo fuori. Ma Battiato, si rende conto? Battiato che ha detto che ci sono delle troie. Ma c'ha ragione o torto, secondo lei? Scusi, c'ha molto torto, nel senso che è esagerato e queste cose non si dicono, però trovo esagerato anche sbattere fuori perché in fondo c'è tanta gente che ha fatto e detto di peggio, che resta e sta ancora in posti di molto rilievo, no? Vabbè, ho capito, però... Anche se ha detto delle cose molto pesanti, che mi meraviglio di lui, che è effettivamente un poeta, un artista come lui, come gli è venuto di dirle, ecco, sono molto gravi le cose che ha detto, però da qui a sbattergli la porta, a chiudergli la porta, e poi quel conoscente... Secondo me lei un po' ci crede a quello che ha detto... Battiato, ci credo. No, non credo. Credo che non si possano fare esprimere dei giudizi di questo genere mai, anche se uno dovesse pensarli, non li può dire. E Crocetta? Ecco. E Crocetta si è comportato, secondo me, da molto da vigliacco, perché il giorno prima l'ha sostenuto e ha detto ma comunque un artista, un poeta, è come Picasso, è come Dalì, e non ce se la prende con uno che come Picasso e Dalì, e il giorno dopo lo caccia fuori. La trovo una persona che non ha coraggio, uno che vuol far bene il compitino oggi perché sta lì, perché è messo lì all'indice, insomma, poteva prendersi le sue responsabilità e difenderlo. Grande opinionista politica, insomma, Marina Ripa di Meana, lo dico con ironia, ma soprattutto quando date le belle bastonate al signor Bersani. Questo... Bersani è un imbranato, ecco, poveraccio, mi fa anche pena, un povero uomo che Vabbè, che non sa dove come raccapezzarsi. Beh, ha detto un povero uomo. Povero uomo. Oggi è uscito bastonato da quell'incontro con Napolitano. Mamma mia, poveretto. Poi trovo che anche il presidente Napolitano alla fine potrebbe anche decidersi a mandarlo a quel paese. Beh, ma guardi che domani ci domani siamo. Domani lo farà. Domani credo che lo farà. E domani senta, lo farà. Il suo, al Quirinale, lei chi ci vedrebbe al Quirinale? Io ci vedrei mio marito, Carlo Ripadimiana. Ma che suo marito, su, dai. Come no, io lo vedo bene così. Per carità, perché è una bravissima persona, però insomma adesso non esageriamo. Insomma, suo marito. Come non esageriamo? È una persona per bene, vera, onesta. Ma che vuol dire? Quello che tanti altri sono beh, insomma, uno che è stato commissario in Europa, perché Monti non aspira al Quirinale, dopo come non ha fatto. Sì, per carità, però insomma, adesso siamo seri, dai. Lei me lo chiede, io ci vedo lui. Vabbè, ho capito, però. Un po' fuori dai giochi, dice lei, ho capito quello che. Beh, sì, ma no, per carità, ma adesso. Ma guardi che al Quirinale basta andare una persona insigne e Carlo Ripadimiana è un insigne però persona. Che lo candidi lei, che lo candidi lei è giusto, anche scontato. Anche, beh, guardi che la candidatura di una moglie è molto importante perché una moglie vede un uomo in tutte le sue sfaccettature e lo vede tutti i giorni, non è solo di parte. Io lo vedrei, lo vedo perché veramente penso che sia una persona che dal giusta. Punto di vista se lo merita. Vabbè, la candidatura di Carlo Ripadimiana magari scombussolerà. Comunque, se vogliamo levare dei giochi Carlo Ripadimiana, ma io non vedrei è nei giochi, Presidente non c'è. Della Repubblica Umberto Veronesi. Ah, ecco, questo è interessante. Sì, Veronesi, sarà contento Giuliano Ferrara, della candidatura di Veronesi. No, beh, che si possono vedere, credo, per una serie di ragioni. Non lo può vedere? Secondo me non lo può vedere. Comunque mi interessava molto quell'aspetto là di Travaglio ancora, però vabbè, ormai l'abbiamo già dato. L'abbiamo un po' esaurito, che cosa dire? L'abbiamo esaurito su questo. Vabbè, signora Ripadimiana, la ringrazio moltissimo, mi scusi se sono stato un po' scostumato. No, vabbè, insomma, sarà. Lo so, però io buttiamo dietro le spalle certe. Lo so, poi comunque le auguro. Io la considero un mito, la considero un mito assoluto. ma sì, perché sono affascinato moltissimo da quello che lei ha fatto nel passato, soprattutto quando, come dice lei, fornicava moltissimo. Sì, però quello. Però ormai è importante averlo fatto, non ricordarlo. Però adesso non è che uno poi abbandona del tutto. Quello Parenzo ormai ha abbandonato del tutto. Vabbè, certe nostalgie poi alla fine diventano quelle facce live, sa, quelle cose. No, sì, quello è vero. Tutto della vita bisogna anche sapersi rinnovare, cambiare certi tic, non averli più. Sì, meglio un libro, ecco, meglio un bel libro la sera, giusto? No, non voglio dire quello, ci sono tante cose da fare, ma non essere degli obsedé sexuel tutta la vita. Quello pure è vero. Quando, io vi auguro buona Pasqua. Quando ha cambiato passo lei da questo punto di vista? Pochi anni fa. Vabbè, insomma, le cose vengono con una certa. Si invecchia con calma, appunto. Un abbraccio, a presto. Libro. Grazie. Auguri. Non mi moleste moschito. Non mi moleste moschito. Vabbè, vattene, va, hai rotto, va. Ti do 2 minuti, va, hai rotto, vattene, va. Chissà dove devi andare, vattene. Domani al cellulare. Vattene. Antonio dalla provincia di Salerno, vattene, che mi hai rotto le palle stasera con sto Israele. Antonio Pronto. Dalla provincia di Salerno, dica. Pronto, è una cosa assurda quello che sta succedendo oggi. Veramente mi viene voglia di dire di dire che mi sento veramente male di non aver votato il 5 Stelle. Che senso, scusi? Perché ho votato PDL ed è l'unica volta che vedo un partito, anche se non vogliono essere chiamati partito, che mantiene le promesse. Cioè l'unico partito che prima diceva una cosa e adesso la mantiene. Cioè, dico io, un Bersani che non vince le elezioni, sì, perché si ostina a chiamare tutti, a fare colloqui con tutti e non a decidere veramente l'unica cosa che deve fare, cioè quella di fare un passo indietro e di mettersi con le persone che gli hanno dato, che gli vogliono dare la fiducia, anche se probabilmente per fare i cazzi loro, dai, per i cazzi loro, esatto, però comunque vogliono fare un governo come il PDL, sì. Per l'amor del cielo, sarebbe un'ennesima... Vabbè, dobbiamo guardare in faccia la realtà. Il PD in questo momento, per quello che è successo in campagna elettorale, per quello che succede a Berlusconi, non può fare un governo col PDL. Purtroppo è così, la realtà. Si potrà fare un governo, vedrete, di personalità esterne ai due partiti, ma appoggiate ai due partiti, che è quello che succederà. Un governo del presidente che farà poche cose. Vabbè, ci sentiamo domani, va, 18:30. Che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. La passione si sente. Cornuto.